come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. E lasciami gridare. Mi rompo i coglioni da morire. Lasciami sfogare. Che cazzo di conduttore sei? Io senza amore non so stare. La Cuffaro, una meravigliosa. Io non posso restare seduto in disparte. Giuliano Ferrara, amici miei della Zanzara, Giuliano Ferrara numero uno ieri sera durante il programma di Mentana. Io sono dalla sua parte al 100%. A me piace questo nuovo Ferrara, un Ferrara in grande forma, un Ferrara che parla come mangia, un Ferrara che usa anche un linguaggio che spesso rimprovera a noi della Zanzara. Ma al di là di questo, adesso vi faremo sentire tutto quello che è successo ieri sera. È tornato tra di noi, presente fisicamente, David Parenzo. Eccolo, applausi, applausi, tecnici, applaudono anche i tecnici. Popolo della Zanzara è tornato tra noi, vivo e vegeto, vivo e vegeto. Non ha la patente, è un cretino per vari motivi, si muove con i treni, patente, con i mezzi. È un cretino patentato, potresti dire. Sì, è un cretino patentato, esatto. Intanto fammi subito la classifica di luglio dei parlamentari più assenti. Le vergogne di luglio. Oh, Antonio Gaglione, 93,61 presenti. È Gaglione quello col papillon, super assenteista, il solito. Eletto, voluto dalla Bindi, eletto nel PD, poi passato chissà dove. Al misto. 93,6% di assenze. Poi? L'onorevole avvocato professor Niccolò Ghedini, 80% di assenze. Amici miei, sempre impegnato in tribunale e a smentire gravidanze inattese. Poi? Poi dopo abbiamo il signor Miccichè. Ah, quello che adesso si candida, prima appoggiava Musumeci in Sicilia, adesso ha deciso di candidarsi con Fli e con l'amico Lombardo. Non si capisce più niente. Miccichè, 79% di assenze. Poi c'è il nostro amico Verdini, signor Verdini, 74%. No, prima c'è Mannino con 75%. Calogero Mannino, 75%. Quindi Barbareschi, 71%, che piglia a calci e pugni le Iene ancora una volta. Ancora signor l'ha fatto. Ancora l'ha fatto. Poi lo chiameremo, poi lo chiameremo. Barbareschi. Prima però, questa è la top list dei record man di luglio, la vergogna di Scrivete, luglio. Scrivete, carta, penne, calamaio, amici Gaglione, gruppo misto, 93,61, Ghedini, PDL, 80%, Miccichè, misto, 79%, questo è il podio. Poi c'è anche Barbareschi che piglia calci le Iene con 71%. Ferrara contro Di Pietro, partiamo da Ferrara Di Pietro, magistrati sono fattutissimi carrieristi. Ti piace? Sono i delinquenti, sono i magistrati, l'hai capito o no? No, i magistrati non sono mica i delinquenti. Sono dei fottutissimi. No, i magistrati sono dei fottutissimi in questi casi specifici. Ma cosa vuol dire fottutissimi? Fottutissimi carrieristi che mescolano la giustizia e politica. E la politica, Giuliano, vediamo di non trascendere, perché poi uno giustamente... Aspetta, si sta diffamando delle persone a cui io non intendo. Hanno portato in Italia un barbaro uso politico della giustizia. Va bene? I magistrati fottutissimi carrieristi. Sempre a Di Pietro non puoi diffamare così. Questa sono no, lei è il conduttore, è il dovere. Cioè, che si prosegue in diffamazione di gente che rischia la vita. Ho detto delle cose che non sono vere. Ma lei sta fottutissimo. De Magistris è sindaco di Napoli o no? E questa però, è una cosa. No, benissimo. Di Pietro è capo partito da 15 anni o no? Scusa. Allora, Ingroia ha deciso di non andare in dibattimento a cercare a costruire la prova sulla verità che gli... Come non aspetta a lui andare? Di Pietro. Ci va il sostituto, lui è l'aggiunto. Ci va il sostituto perché lui sta in Guatemala. Perdi occasione. Ancora contro Travaglio, scrivi puttanate sulla trattativa, sentiamo. Scatenato, Numero uno. Dammi sta risposta, perché hanno arrestato Rina al culmine della trattativa antimafia? Vedo che la stai cercando nel tuo animo, i tuoi occhioni. Dammi la risposta, forza, Ma tu sei come? Ma sputa la risposta. Dai. Perché quelli che tu dici che Giuliano, collusi con la mafia hanno arrestato tutti i mafiosi? Me lo vuoi spiegare? Lo vuoi spiegare agli spettatori? È tutta una puttanata quella che scrivi tutti i giorni sul tuo giornale. Perché hanno arrestato tutti i mafiosi? Okay, oh, la domanda, Giuliano. Ma no, ma se chiara. Ora fai tu la domanda gliela devo ma fare io. Ma l'hai già fatta appena, cosa doveva rifarla? Ma sono 3 anni che dai a Travaglio la parola e non gli fai queste domande. Ma chi non la fa? Che è un giornalista della televisione. Vabbè, ma è talmente spettacolare che bisognerebbe risentirla tutta. Ferrara, mi rompo i coglioni a sentire Travaglio che cazzo di conduttore sei rivolto a Mentana, così chiudiamo, su. Ma stai zitto, tu sei in conflitto di interesse, stai zitto. Ma non si fa. È inutile che cerchiate di sdrammatizzare. Siate conseguenti. Travaglio, se sostenete adesso vorrei parlare io, se permetti, perché non sono però venuto a sentire dei comizi di Travaglio o a sentire litigare di Pietro e Boccia, mi rompo i coglioni da morire. Poi dico fottutissime, no, non sono sboccato, sapessi mi sono rotto i coglioni di sentire dei comizi di Travaglio. Ha detto finalmente la verità e nessuno lo interrompe, che cazzo di conduttore sei? Travaglio ha detto, Ingroia ha fatto un golpe. Va bene. Ma perché non ricorda i magistrati che sono finiti a far politica nel PDL, visto che se la prende con De Magistris e Di Pietro? Vero, sì, potrebbe e Vitto Palma potrebbe e Mantovano ricordarlo. E Mantovano. Ma lo ricorda che anche cosa faceva quello. Mantovano prima di fare il deputato di Forza Italia del PDL? Diciamo che non erano DAN, così visibili e non DAN, sono così visibili Mantovano. Come gli altri. E non erano magistrati anche loro? Fermo. Ricordalo, Giuliano, ricordalo. Fermo. Ma la posso prendere con Giuliano Amato? Perché sì, ieri, l'altro ieri, non mi ricordo quando, ha ricordato che la sua pensione è di 22.000 euro lordi, ma non voglio ritornare sulla questione della pensione di Giuliano Amato, però, me ne frega, no, 22.000 euro lordi ha diritto, sì. Secondo le norme vigenti, e chi se ne frega, l'abbiamo già attaccato più volte, tu l'hai inseguito pure con un microfono, sì, mi lasci stare. senza riuscire a cavare un ragno dal buco, per colpa tua naturalmente. Vada via. E però la cosa incredibile è che Giuliano Amato, in un'intervista credo alla festa del Partito Democratico, sì. Intervistato da Menichini, dice: io sono stato pressato per rientrare in Parlamento nel 2001. Ma chi è che l'ha pressato? Cioè, non ci sono solamente quelli che fanno le cose a loro insaputa, quelli che fanno le cose pure contro la loro volontà, in questo caso. Cioè, Amato, ma pressato, se uno dice no, non voglio, dice non voglio, non ti capiti. Ma è che il nome appare in lista improvvisamente? Improvvisamente appare io, pressato per rientrare nel 2001. Se ne poteva anche fare a meno di Giuliano Amato nel 2001. Sì, assolutamente. Via. Da allora sono venuto svolgendo varie attività. E sempre vi assicuro, perché mi è stato chiesto di farle, sono stato addirittura pressato perché le facessi, compreso il rientro in Parlamento nel 2001, che io non desideravo più. Non lo desiderava il rientro in Parlamento, ma uno se non lo desidera non lo fa, non si fa mettere in lista. Questo mi fa incazzare, capito? Perché a me non mi interessa, capito? La questione della pensione di Giuliano Amato, 22.000, 30.000, sono troppe, naturalmente, sono troppi soldi, andrebbero diminuite le pensioni d'oro, eccetera, eccetera. Però uno ne ha diritto per legge, eccetera. Ma che uno dica che nel 2001 è stato pressato e non voleva, contro il suo desiderio, essere candidato, questo mi fa incazzare come una bestia. Però una delle frasi del giorno è quella pronunciata da Bersani ieri sera: tra Vendola e Casini mi tengo Vendola. E questo cambia tutto. Sentiamo anche Bersani. Cambia tutto. Io me lo tengo Vendola, sì. E me lo tengo Vendola, sì. Prova a chiedermi se preferisco Vendola o Casini. Preferisce Vendola o Casini? Vendola. Io senza amore non so stare. Io la combatto. Sei ancora qua, Simo? E siamo ancora qui nelle parole di Marcello Dell'Utri qui alla Zanzara, che in siciliano ci diceva: ancora qui, Semo. Siamo ancora qui. 800 24 00 24. Brava persona sto Dell'Utri, no? In che senso, scusa? No, non lo so, dico in generale, brava persona Dell'Utri. Beh, brava persona, adesso questo non lo so, io me ne frego, sai, non sono così. Come me ne frego? Non sono come te che distingue le persone tra brave persone, cattive persone, eccetera. Però io voglio subito fare sentire una cosa a uno dei nostri ospiti, così una cosa su Beppe Grillo. Due ospiti d'eccezione, diciamo subito. Veloce, subito. Boccia, che è uno dei padroni di casa qui a Bedrò, dove siamo collegati, Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, battuto da Vendola alle primarie della Puglia più volte, anzi due volte. Neo padre con la signora onorevole De Girolamo. Questo chi se ne frega, abbiamo già dato. Abbiamo già dato su questo. Sempre. Abbiamo già dato. La bicamerale degli affetti. Scatenato ieri sera, devo dire, da non mi ricordo dove era, tu che sai tutto. Da Mentana, Bersaglio Mobile, grande trasmissione della Sette, giusto ricordarlo. Ma tu sei in conflitto di interesse e non puoi parlare della Sette. Boccia, grillo, demagogo, milionario in pantofole. Caro Andrea Scanzi, buonasera. Buonasera. Grandi esigenti di Beppe Grillo. So che Andrea Scanzi. No, il biografo di Grillo, biografo ufficioso, non autorizzato, ufficioso. Non autorizzato, però insomma, simpatizzante anche. Sì, diciamo, sì, non l'ho mai nascosto. Sì. Hai votato nascosto anche Grillo? L'anno scorso alle amministrative di Arezzo. Sì. Cioè, e lo non si candida alle politiche? Sì. Non lo so, sono a ballottaggio tra lui, Di Pietro e l'astensione. Ma addirittura, cioè, voto moderato. E ti piacerebbe una liaison tra Di Pietro e il signor Grillo? Avrebbe senso, ma non ci sarà mai perché Grillo andrà da solo. Beh, questo è interessante. Grillo andrà da solo. Secondo me all'ultimo secondo si mettono insieme. Secondo me all'ultimo secondo si mettono insieme e fregano tutti, sì, o no? La vedo difficile, vorrebbe dire rinnegare tutto quello che ha detto sinora Beppe Grillo, la trovo improbabile come cosa. Boccia, Grillo demagogo milionario in pantofole, sentiamo. A Grillo ho semplicemente ricordato che è facile fare il populista demagogo facendo il milionario in pantofole, dando ordini che quasi sempre coincidono con tesi che noi riteniamo in alcuni casi fasciste, in altri sfiorano un'idea della politica che non ci appartiene. Quanto è lento ogni tanto Boccia a tirare fuori. Dovrebbe dire due frasi: Grillo, demagogo, milionario in pantofole, risolveva tutto. Linguaggio fascista di Grillo. Insomma, questa cosa qui ha attecchito nel Partito Democratico, Scanzi, questa cosa del linguaggio fascista. Ha attecchito, mi ci sono divertito anch'io stamattina a riraccontarla sul fatto, questo rapporto tra PD e Grillo. Io credo che ogni volta che i Boccia aprono bocca, Grillo acquisisce altri voti. Dici, Sì, stanno facendo una campagna elettorale straordinaria per il Movimento 5 Stelle senza accorgersene, però lo stanno facendo bene. Sono degli alleati involontari di Beppe Grillo. Lo sai che io con il signor Scanzi spesso siamo in disaccordo su parecchie cose, però io su questa cosa qui, che il Partito Democratico sta facendo una guerra a Grillo semplicemente per, come dire, no? Perché c'è lo stesso elettorato, sono d'accordo con lui. Ma che stesso elettorato? Sì, voglio lo stesso elettorato. Insomma, c'è una guerra elettorale. Uno è un elettorato pronto a prendere i forconi e a scatenarsi, l'altro invece è un elettorato riformista, moderato, di destra. Pronto. Boccia, linguaggio fascista di Grillo, sentiamo. Cosa ha a che fare con la politica questo linguaggio? Quando si dicono alcune cose sugli immigrati, che si va oltre anche il calcio nel sedere di Bossi, è un linguaggio per noi fascista, no? Non è un linguaggio certamente democratico, non è un linguaggio di sinistra. Va bene, 800 24 00 24, poi faremo sentire tutta la saga, la grande saga Ferrara versus Travaglio. Inutile chiedere a Scanzi, insomma, che ne pensa di questa cosa qui. No, ti ho sentito però prima, Giuliano Ferrara televisivo non sta dando il meglio. Tu che sei anche critico televisivo, ultimamente sta dando il meglio, diciamo la verità. È tornato sicuramente Ferrara, funziona molto, funziona molto, è sicuramente molto meglio divertente. Ospite o conduttore? Ospite. La grande conduttore secondo me è noiosissimo, almeno a Radio Londra è molto noioso e lento, lo era. Come ospite non lo condivido praticamente mai, però sicuramente in una trasmissione lo inviterei, perché funziona, perché crea caos, perché sa parlare, sa ammantare di apparentemente condivisibile quelle che per me sono delle sciocchezze siderali, però funziona. Sciocchezze siderali, che ha detto ieri su Ingroia sono allucinanti, dai, su. Io lo so che ti piace perché vedi lui una sorta di padre putativo in Giuliano Ferrara. No, perché adesso padre putativo? Ma sì, come perché... per te Travaglio, un punto di riferimento, ma diciamo. Ma infatti no? Non mi imbarazzo se me lo dici, tu invece... Se tu lo voteresti, se facessi un partito, lo voteresti? Travaglio? Ma non lo farà mai, non ce lo vedo. No, non ce lo vedo, non lo farà mai. Non sarebbe un gran politico, è bravo come giornalista. Però è un tuo punto di riferimento, c'è una foto sul comodino, ce l'hai? Non ce l'ho, ma lo stimo molto. Quando mi ha cercato per andare a Fatto Quotidiano, l'ho preso come un grande... Ogni tanto scrive dei tweet, signor Scanzi, e dice... condivido tutto quello che ha scritto Travaglio. La cosa brezhneviana, la cosa assurda, sembra brezhneviana, è vero, non mi rendo conto, però sai, ho un vice direttore che condivido. Quando era La Stampa il direttore non lo condividevo mai, adesso sono felice di condividerlo invece il direttore e il vice direttore. Bene, abbiamo qui però una delle più belle deputate del PDL. Sono PDL. Sconvolto, che esagerazione, sono sconvolto. Sei una delle più belle, perché che esagerazione, scusa, non ti piace signora Ravetto? Laura Ravetto, buonasera, benvenuta. Scanzi fa il furbino, perché mi piace un po' Scanzi come uomo, proprio Come zero? Ma guardate, un bacio sulla bocca, labbra chiuse. È un bel ragazzo, è un bel ragazzo. Lampanato, no. Poi senta, volevo dire, ma come si fa a dire di Ferrara conduttore, giornalista? Vabbè, ma conduttore, lei non me l'aspettavo. Ma io dico conduttore nel senso conduttore di dei programmi televisivi. Ha condotto dei programmi. Ha condotto. Si mette a fare polemiche inutili però, perché se no... Ha condotto anche le lezioni di sesso, quindi è vero che è stato anche conduttore. Comunque sono d'accordo con Scanzi sul fatto che effettivamente, nonostante il linguaggio esagerato di Grillo, anche molto volgare, tutto questo gli ha portato una visibilità incredibile e mi sono chiesto, ho fatto un tweet anch'io in cui mi sono chiesta se l'ufficio stampa di Bersani è ancora in vacanza, perché per me è incomprensibile, cioè le paginate, le due paginate date di Repubblica a Grillo per questo dibattito. Grillo va contrastato nel merito di quel che propone, basta leggere il programma suo del movimento e si trovano lei l'ha spunti, letto tutto, perché... tutto. Ci ho fatto anche una puntata alla 7 su questo e mi sono resa conto che sono una delle poche che l'ha letto tutto. Non è così, lei è responsabile propaganda, responsabile propaganda, lei è responsabile propaganda, c'è un dipartimento propaganda, che è una cosa sovietica, propaganda. Ma tutti i partiti ce l'hanno, no, questa cosa il vecchio Piccino chiamava propaganda. Tutti i partiti e qual è la propaganda che sta preparando per questo autunno? Ma per esempio autunno? Stiamo valutando l'opportunità di chiudere tutte le radio, tipo questa qua, stiamo giustamente pensando nell'ottica della libertà d'espressione. Senti, dato che ha fatto questo apprezzamento su di te, caro Scanzi, ma Ravetto la consideri più bella o più brava? Ma brava, scusi, ma Scanzi subito... neanche mi conosce, brava a far che? Ma che no, la conosco anche troppo, ne parlavo quando non ne parlava nessuno invece, e lei lo sa benissimo. No, la considero onestamente più bella che brava. Più bella che brava, deve essere sempre come politica, come parlamentare, come politica, poi come avvocato, come donna non la conosco. Senta, ma mi dica la verità, io so che... non mi chiede se ritengo Scanzi più bello che bravo? Beh, ha già detto che non le piace Scanzi. Non mi piace, ma lo ritengo più bello che bravo. Più bello che bravo? Addirittura, quindi un incapace puro? Non mi piace come giornalista. Perché che c'ha come giornalista? Che c'ha, Scanzi? Ma per esempio oggi a Vedrone il workshop proponeva un'idea di giornalismo molto personalizzato, molto basato sulla persona. Invece io sono più per i giornalisti che cercano la notizia. Ah, perché Minzolini cercava la notizia forse. Scusi, mi è partita la risata, scusi. No, sto scherzando, mi piace. No, ma vabbè, Minzolini è il suo ideale. Se Scanzi non è il suo ideale di giornalista, Scanzi, Minzolini, Scanzi è un bravo giornalista. Minzolini è il suo ideale di giornalismo, no? Il signor Minzolini, ad esempio. Allora, Augusto, lo sapete tutti, è stato il più grande retroscenista. Perché parla sempre al passato, stampa. Però? Quindi, sì, Augusto è un bravo giornalista. Il tutti suo modello, lo sapete. Miglior giornalista italiano. Il mio modello, non ho un modello di giornalismo, me ne piacciono tanti. Mi piace molto Enrico Mentana, ad esempio. Quello. Cioè, quando uno dice sempre, non sa cosa dire, dice sempre Mentana. Ma figurati, ma che dici? Ma vabbè, questa è una sciocchezza. Un po' è vero. Ma non so, sfido trovare qualcuno della mia parte politica che ti dica che il suo giornalista preferito è Enrico Mentana. Sì, come no, a me piace. D'accordo tutti. Allora, voglio capire una cosa, ma il ritorno di Berlusconi, no? Sì. Ecco, diciamo la verità. Ma pare che non se n'era mai andato, lei se n'è accorto, sì? Si era eclissato. Adesso sta facendo la dieta. Gliel'ha consigliata anche lei, correre, la dieta? Lei si è fissata di queste cose? Non mi vengono neanche chiesti questi consigli dal presidente, onestamente. Quindi non sono Fa bene a fare la dieta, perdere chili, eccetera. Ma non ho idea, evidentemente. Non mi sembra entusiasta del ritorno di Berlusconi. No, io guardi, io lo do per scontato. Lo do per scontato. Di Berlusconi, sì. Anche questo Grande Italia, le piace Grande Italia? A me non piacciono tanto i nomi che poi si riducono in sigle, e visto che mi sembrava che si dovesse superare il concetto della sigla, no? PDL, per esempio a me piace Italia. Punto. La proposta di diventare Italia. Facciamo un partito che si chiama Italia. Beh, è una cosa interessante. Sì, proposta... bello, Italia, sì. Italia. Sì. Italia. Per appropriarsi Italia. Anche della parola singola Italia. Penso Punga. Cioè uno ha fatto Forza Italia, adesso Italia. Direttamente Italia. Cioè, lei lo chiamerebbe Italia. Io lo chiamerei Italia. L'ufficio propaganda. Questo è interessante. Devo valutare un attimo se c'è la possibilità. Cioè l'ufficio propaganda del PDL dice non ci chiamiamo più PDL, mi voglio chiamare Italia. Beh, lei è responsabile. La propaganda personale. O no? Sì, ma a titolo personale. Come a titolo personale? Che vuol dire titolo purtroppo personale? Purtroppo non lo scelgo io l'eventualità. Però, cioè, lei sta dicendo che non conta cazzo, questa ma è la realtà. Si sa, Cruciani, ma quando mai i giovani in politica contano qualcosa? No, non è che c'è tre giovani. Lei non è che sia. Quante legislature ha fatto? Lei quanto conta nel mondo della comunicazione? Ma un pochino, poco, ma conto. Io conto poco, sì. Meno di me? Sì. Meno? Sì. Molto meno? Sì, meno sì. Di Scanzi? No, più lei? Di Scanzi. Meno no, lei. Come? Scusa. Cioè, lei Scanzi è massacrato proprio. Lui è totale, cioè, Scanzi. Dopo questo saggio di finta immodestia di Cruciani e Ravetto, proprio Italia, anche Italia. Italia. Ma come si fa a chiamare un partito Italia? Ma su, Scanzi, dica Italia qualcosa, Ravetto. Italia, su. Italia. Invece vabbè, Italia è un nome agghiacciante, però ha ragione quando dice che spera che torni Silvio Berlusconi. Perché? Ma perché? Come fanno senza Berlusconi? Ma l'hai visto con Alfano cosa hanno fatto? Lo stanno distruggendo il partito, sono rimasti in cinque. Con Silvio Berlusconi possono in qualche modo rianimarlo, quantomeno contenere la sconfitta. Da 5 a 7 a 8, dici. Ma 5-7 forse è un po' poco. Di sicuro li vedo messi male. Silvio Berlusconi è l'ultima possibilità, non per vincere, ma per limitare i danni. Allora, la Ravetto, dopo dico la pubblicità. Bisogna aspettare prima gli elettori, certo, no? Aspettiamo certo. Il voto. Quella sono previsioni, certo. Quelle scontate. Laura Ravetto, fra poco ci dirà quali sono sì. I dirigenti del PDL che secondo lei vanno rottati. Dato che no, lei dice no, di essere no, giovane. No, io guardo come no? Su sta menata nomi. Della rottamazione. Come? Nomi, cognomi. Nomi e cognomi. Chi non vuole più vedere in Parlamento? E ma poi parleremo del suo incarico importantissimo. Se io faccio il voto delle persone o mi permetto di dire cose del genere, è la cosa più facile. Volete pubblicità e decidete di parlare male di qualche collega di partito. No, male. Uno dice da vent'anni, dopo vent'anni basta. Ma, no? Ma si figuri se faccio discorsi perché di questo no? Tipo. Possiamo fare dei discorsi sulla permanenza dopo X legislature in Parlamento. Questo discorso anche si può PDL, fare, sì. Ma non possono mai cioè, essere Gasparri, discorsi deve rimanere personali. O no che è stata vent'anni in Parlamento? La così Gasparri. Ma guardi, se si ritorna alla legge elettorale in cui la scelta è data all'elettore, Gasparri farà un sacco di preferenze piuttosto che un sacco di consenso e tornerà in Parlamento. Allora di che stiamo parlando? Volete essere democratici o no? Se non volete essere democratici ci mettiamo qua sì, col taccuino di Parenzo. È anche uno che decide di candidarlo diciamo, o no, ma lei non si appropria delle cose di Parenzo. Tutte le mie domande voti, è l'agenda certo rossa deve di Parenzo. Deve rimanere perché ha un sacco di voti. Ma certo, ma la politica no, è questo, carità. Cruciani. Ah, sì, ecco. Sì, sì. Ah, ok. La zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se ne va. C'è ancora il tasso. Oppure si chiama Zezè. Ma questo insetto 24 qualche ascoltatore tra poco che vi devono mettere qualcosa ancora. Fatemi mettere qualcosa. Sì, mettete da Milano, mettete. Regia, mettete. C'è ancora il tasso. Si chiama Tigre. Vogliamo ripetere la lista sulla risata giusta di Assunta Almirante qui alla Zanzara, la lista della vergogna e del record di assenze a luglio. Assenteisti eccellenti, Antonio Gaglione 93,61%. Vabbè, quello non è una novità. Onorevole professore avvocato Niccolò Ghedini, impegnato a smentire gravidanze inesistenti, 80%. Il signor Micciché, 79%, Calogero Mannino, 75%, amici Denis Verdini, 74%. Barbareschi, 71%, Bersani, 70%. Bersani, 70%, è settimo in questa classifica. Voglio ricordare il signor Cesar, ad esempio. Però Cesar, nessuno conosce bene il signor Cesar, tanto compare sui giornali, secondo me, Cesar. No, veramente poco. Col 42%. Che cazzo tu conosci è Cesar? Cesar? Che ruolo ha, secondo te? Scalzi, Cesar. Presenti, lo so, lo perché conosco, se no presenti, onorevole Laura Ravetto tra i più presenti. Io, ma, questo non è, ma non è una bella cosa, non è che uno dice presente no, come una medaglia, è normale essere presente in Parlamento. Di assenteisti, Beh, insomma, a giugno c'era gente col 100% di assenze. Vabbè, adesso comunque sono la minoranza perché i parlamentari sono presenti. Sì, a luglio, a giugno non c'era nessuno in Parlamento. Poi sono uscite le statistiche. Scusi, non c'era nessuno. C'era un sacco di gente con me. Sì, ho capito, però non prenda tutte le cose alla lettera. Non c'era nessuno significa che c'erano molti parlamentari assenti a giugno, anche col 100%, siccome poi ce ne siamo occupati noi, se ne sono occupati le Iene, se ne sono occupati il Fatto e altri, molti a luglio sono corsi ai ripari tutti in Parlamento. Pensare, infatti uno vede le cifre. Vabbè, e a luglio sono cambiate, tranne Gaglione, che quello poveraccio, adesso più tardi lo chiameremo, sì. 93-61 continua a stare in Parlamento nonostante questo record. Quelle sono di cifre assenza. Vergognose, sì, sono d'accordo, però poi bisogna vedere le varie è da cacciare anche Verdini, 74%, glielo dica qualcosa sul no, Verdini. Ma il vero tema sul Verdini. Ma Verdini si deve ricandidare o no? Sapete cos'è il vero tema? Ma sfugga questa domanda. Non sfuggo, voglio proprio andare nel merito. Si dovrebbe porre il tema in Italia, che però cosa? Vale per tanti, anche per quelli che insomma, voi non avete citato, di eventualmente valutare la possibilità che il lavoro di parlamentare, anzi l'incarico di parlamentari, inteso in una maniera anglosassone, già mi sto annoiando, comunque vabbè, sia a noi, probabilmente deve essere distinto da altri ruoli. È chiaro che chi ha un ruolo di partito importante, quindi chi fa l'avvocato deve fare solo l'avvocato, non anche parlamentare. Bravo, sono d'accordo con lei. Che fa solo la parlamentare non fa la l'avvocato. Oh, quindi Ghedini non dovrebbe più fare l'avvocato. Ma non è questo, brava, ho parlato di ruoli di partito. Con lei. No, ho ma lo dica tutta. La dica tutta fino in fondo, perché è bella lei. È una donna bella, no, saggia, intelligente, allora, e libera. No. Lo dica, no, Ghedini, sì, fai solo il parlamentare e non l'avvocato. No, no, oibò. Sì. Dovrebbe dirlo alla buongiorno. Vabbè, però torniamo. Allora lei lo dica alla buongiorno. Certo. Ma lo stiamo, allora, la legislatura sta finendo. Non stavo dicendo quello. Stavo dicendo un'altra cosa. Che si dovrebbe iniziare a distinguere il ruolo politico puro, brava, dal ruolo parlamentare. Sì. Quindi Ghedini... perché è normale che chi è molto impegnato in un partito, lei ha fatto l'esempio di Verdini, si è addormentato, è sul normale crociere, che poi magari dovendo seguire cose fondamentali, sì, non riesce a star dietro ai lavori parlamentari. Io voglio sapere, i dirigenti del PDL, sì, i dirigenti del PDL di oggi, fare un discorso, signor La Russa, sì, signor Gasparri, sì, signor Verdini, si devono ricandidare, sì o no? Lei dice solo con i voti, però non è su questione solo di voti, no? Va cambiata la classe, guardi, dirigente, sì o no? Politica e consenso. Lei ho mi ha capito, fatto i nomi di gente che ha il consenso. La Russa, Gasparri, hanno il consenso. Quindi giustamente, se lei avranno consenso, il consenso, e secondo me lo avranno, hanno più di me loro, se avranno il consenso e secondo me lo avranno, torneranno in Parlamento, punto. Questo è inutile, non si ma possono si vorranno far candidare liste... negli stili bloccati o nel o ma nelle questo cose? Non lo so, non sono al no, secondo lei, secondo lei questi qua no, io credo che vorranno Russa, correre Gasparri. Ma vorranno correre, vorranno ma correre, vorranno correre. Lei è d'accordo per mantenere un po' di listini bloccati? No, personalmente io farei correre tutti. Perché sì, perché se devono, si deve correre, si corre tutti. Lei conosce il signor Volpe Pasini? L'ha mai conosciuto? Diego, no. Diego Volpe Pasini. Pare che sia un consigliere di Berlusconi. Sì, però no, non l'ha mai visto, l'ha intercettato in giro nel cielo elegante a Palazzo Grazioli. Non l'ha mai intercettato. Il stratega di Berlusconi. Beh, insomma, uno degli strateghi, sì, di Berlusconi, certo, eccetera. Ma io voglio dire una cosa, mi dica la verità. Io so che lei lo pensa, però Berlusconi, alla fine, proprio andando al solso, non è stato rovinato alla fine da questa questione delle donne. Cioè, la vera rovina di Berlusconi è stata questa. Beh, sì. Cioè, non è stato... la questione dello spread, eccetera, eccetera. La vera, il vero disastro di Berlusconi è stata questa sua... malattia, diciamo la verità, questa è un po' di la sua fissazione, la passione, per la donna, passione, così. Mettiamo, diciamo passione, anche diciamo passione. Sono diciamo... curioso di sentire la risposta. Sì. Ma così sono curioso. Ma premesso che voi lo date per rovinato e tutte le volte così, da questo punto di vista smettiti, è rovinato. Da questo punto di vista. Ma lei deve aspettare le prossime politiche. No, ma lasciamo perdere. Cioè, però... no, allora cosa intende per rovinato? Ma rovina cioè, è stato politicamente deve aspettare un le prossime diciamo politiche che e avrete un delle po' sorprese. Di consenso l'ha perso, diciamo, no? Guardate, il consenso secondo me il nostro elettorato ce lo fa perdere quando non facciamo le cose che si aspettano. Quindi devo essere onesta, potrei nascondermi dietro questo pseudo problema e dire che è stato sì questo e poi come è stato enfatizzato dai giornali. Ma sono quelle che parlano ogni giorno, la gente che esce da là. In realtà, quando il nostro elettorato ci punisce perché le cose che avevamo detto di fare, probabilmente non le abbiamo fatte. Le noi tasse, dobbiamo le cose, fare una campagna elettorale di verità in cui diciamo alcune cose. Non abbiamo cose. Fatto nulla. No, guarda, sulle tasse, abbiamo pazienza. Così. Noi siamo gli unici che non le hanno aumentate appena sono arrivati. È aumentato il carico fiscale durante il governo Berlusconi. È aumentato. Separazione delle carriere. Tremonti. Non l'abbiamo fatto. Ma la gente che gli frega della separazione delle carriere. Ma lo dice. La separazione delle carriere. La gente tasse, avete promesso l'abbassamento delle tasse e il carico fiscale durante guardi, il governo Berlusconi siamo... è aumentato. No, noi siamo il un governo che in un momento di crisi grave non ha aumentato le tasse. Quando sono ma l'avete arrivati i cosiddetti anche. Tecnici. Comunque, guardi, ha ragione, dovevamo anche probabilmente ingegnarci ancora di più per abbassarle. Sono d'accordo con lei, questo deve essere l'obiettivo del nostro partito. Ma è più autorevole questo governo, il governo che c'è più autorevole di quello di prima. Un po' più autorevole, ma guardi, sì, questo si può dire. Io penso che le cose i giudizi si debbano dare sui risultati. Allora, secondo me Monti in Europa sta facendo molto bene. Molto bene. Se quindi poi è più autorevole mi dice di prima. Quali sono i risultati sullo spread, sulle politiche di sviluppo, io sto ancora aspettando. Se voi mi volete dire che noi abbiamo delle politiche sviluppo perché attualmente rivoluzionarie, ma va bene, ok, diciamo che le nostre non sono state eccezionali. Lei ritiene eccezionali queste, Cruciani? Mi dica, visto una svolta? Ah no, ma è difficile con un decreto fare lo sviluppo, non è quello. In cinque allora, anni voi al governo potevate fare un sacco di cose. In cinque anni adesso potevate fare un sacco di cose. Quando c'eravamo noi non siamo stati capaci, adesso è difficile. Vabbè. Avanti, Cruciani, su. La verità è che qua le ricette sembra quasi che non ce le abbia nessuno. Mentre, comunque lei sulle donne ha risposto sulle donne? Assolutamente no. Cioè ma mi dica ovvio, delle donne. Cioè, no, quanto hanno contribuito al disastro di Berlusconi, che è stato un disastro. Ma com'è la strumentalizzazione che è stata fatta di quella cosa? Sicuramente ha contribuito. Ma è fissato con le donne Berlusconi, sì o no? un po' di malattia, sì o no? Ma quando? No. Figuriamoci. Manco questo. Ma va là, come dice Ghedini. Scusi, però va là. A me mi fa impazzire una cosa, perché uno parla, non con l'onorevole Ravetto, perché questo, no, di questo non ho mai parlato. Aspetti un attimo. Lo dico... Che cosa intende per fissazione? No, fissazione. Lei purtroppo ha parlato di cose No, così, aspetti un attimo, io lo dico. Io parlo con tutte... No, sì, no, malattia, lascia perdere malattia. Dice, le piacciono le donne a Berlusconi? Ma scusi, ma un'ossessione. Le donne, certo che mi piacciono moltissimo, però io non faccio presidente del Consiglio, anche se avessi, allora, anche se ne avessi 50, non faccio presidente del Consiglio. Però le dico una cosa, Comunque, sicuramente l'elettorato femminile, penso che da noi come partito si aspetti delle cose importanti. Cioè? Per esempio, si aspetta che si ridiscuta il ruolo della donna nella società, ma anche soprattutto nella professione. Siamo al top qui. L'elettorato femminile si aspetta che voi ridiscutete il ruolo della donna nella società. La Minetti, siamo al femminismo 2.0. Lei pensa davvero che le donne non votino un partito a seconda delle preferenze che ha un politico più o meno per le donne, ma come no, intende lei? Intende lei? No, la verità è che si dovrà cercare di recuperare consenso su delle cose. Quindi concrete. Lei dice che in questo Berlusconi ha allontanato l'elettorato femminile, questo ci sta dicendo. Ha un po' le vicende che lo hanno visto coinvolto, hanno allontanato una parte del partito. Questo si può dire tranquillamente. Come sono state rappresentate sui giornali, probabilmente possono averlo. Siamo alla diplomazia più assoluta. Vabbè, Francesco da Foggia, 800 24 00 24. Infatti, adesso bacio in diretta alla Ravetto, te lo dico. Però con chiunque parli dell'entourage di Berlusconi, anche persone molto vicine a Berlusconi, ti dicono lo sai qual è la questione, no? Ti dicono così. Faccia i nomi. No, faccia non i li posso fare i nomi perché sono una persona che conosco. Nomi. C'ha la fissazione. Che vuoi fare? Faccia quello nomi, è malato. Faccia i nomi. Off the record. Sono stufa di sentirmi dire che ci sono dei colleghi che off the record si permettono di dire queste cose e poi magari vanno a leccare le terga da mattina a sera. Ma quello che c'è. Queste sono due cose che possono andare parallelamente. Esatto. Ma sono due cose che possono andare parallelamente, purtroppo. Ci aiuta tutti, Cruciani. Faccia i nomi. Non li posso fare, li farei volentieri. Li farei volentieri, ma non li posso fare. Allora non devo credere. Se non li fa, perché non vabbè, troppo comodo così. Lo dice o non è vero? Si sentiva non è come se dicesse anche a me, vengono a dire sa Bersani, no, non mi tocchi così Bersani in realtà ogni tanto, però scusi, ma se lo dicono su Bersani non ci crede nessuno, onorevole Ravetto, scusi un attimo, ma facciamo delle domande, ma non è mica un delitto, non stiamo mica dicendo che è un delinquente. Pazienza, io non è che faccio di professione l'avvocato di Berlusconi, possiamo parlare anche di qualcosa, però è interessante quello che lei ha detto, però se vuole andiamo avanti. Lei ha detto una cosa invece politicamente molto interessante, ma se facessi l'avvocato di Berlusconi, l'elettorato femminile in questi anni si è allontanato da noi, va recuperato. Questa è una cosa molto interessante anche che lei ha detto, anche per le vicende di Berlusconi, come sono state rappresentate. E comunque non si recupera se non dando credibilità sui progetti. E quindi quali donne non vorrebbe più vedere, ad esempio la signora Minetti? Sempre solito questi argomenti, ma è quella donna, immagine, una donna che fa notizia, qualsiasi cosa dica la Minetti conta 100, è diventato Conta 50, diciamo. Se lei vuole rilanciare, però scusi, le faccio questa domanda qua. Se lei vuole rilanciare la questione femminile, voglio che usciamo dal populismo. Sì. Voi siete davvero convinti che il problema della selezione della classe dirigente si limiti alla scelta delle donne e non ci siano uomini, magari, che andrebbe, e che si limiti alla mia parte politica? Ridere? Cioè, ci sono Minetti anche le parti, come lei dice, ci sono Minetti anche le parti. Chi sono le Minetti del PD? Chi sono le Minetti del PD? Guarda, io non sono abituata a fare questo tipo di... È stato sbagliato candidarla. Io dico che tutte le persone che erano in quel momento lì a candidarla, in quel momento lì non si sono lamentate. Adesso sono tutti questo a criticare. Quindi, visto che io non faccio la populista, non mi sono pronunciata. Allora non mi pronuncio adesso. Non mi pronuncio. Perché è troppo facile, anni di distanza, dire è stato sbagliato. Ma sarebbe meglio che si dimettesse adesso? Sarebbe meglio che si dimettesse adesso, sì o no? Ma guarda, ormai il mandato è qua, è stata lei che ha detto che prima che arrivi alla cosa dell'indennità si dimette. Ma è meglio quindi che si dimetta. L'ha già detto lei. Ha fatto così. Abbia detto che lo farà prima che sia. Ma non lo so, comunque, ascolta, sono cose che dovrete chiedere a lei. Ma l'abbiamo chiesto, lei non si ripeto, non si vuole io dimettere. Non mi sono pronunciata allora, non mi pronuncio. E odio lo sciacallaggio su questo lei ha ragione, però uno può dire a posteriori, odio lo sciacallaggio a posteriori. A posteriori, va bene, si può fare, è bellissima, posso baciare in diretta anche il maschilismo latente di far ritenere che perché sono bella cosa che non sono, chi lo vuole fare che non io ho mai detto che lei perché non è bella sono in Parlamento, come dice Scanzi, brava, ma che ne sa Scanzi che non sa neanche in che commissione parlamentare mi trovo, mi fa lo ridere, sa, finanze, non lo sa neanche finanze. Lei gliel'ha detto lei adesso, non sa neanche quali proposte di legge ho fatto, non sa neanche quando ero al governo che proposte ho fatto. Scanzi non sa niente della mia attività parlamentare, non sa niente, non passo la vita a studiare la biografia di Laura Ravetta, questo non sono brava, e allora come fa, e allora prima di dare giudizi, da quello che dice fa in televisione capire quello che fa. Mi è bastato vederla tre anni fa, da lì in poi Scanzi, devo dire, è migliorata nel politichese, nella concretezza poco, è migliorata nel parlare di nulla, i lavori parlamentari. No, non c'è bisogno solo di giudicare dei lavori parlamentari. Ah no, e cosa siete, dalle apparizioni televisive ai politici, complimenti, importante, devo dire. Sì, ma vada nella concretezza, vada a vedere i lavori parlamentari, perché poi sa, c'è tanta gente che va in TV a parlare, a dire grandi cose, poi in Parlamento non si presenta neanche a votare. Non ha senso che vada da lei, proprio perché fa della concorrenza. Sì, allora venga a vedere comunque, cosa fa. Comunque, Scanzi, ad esempio, tu non sai che l'onorevole Ravetto è anche presidente del gruppo di amicizia Italia-Romania. No, lo questa sapevo, è una nomina che mi fece all'epoca Fini. Fini mi nominò in questo ruolo. Ma cos'è l'amicizia? È anche su Wikipedia. Fini mi nominò in questo ruolo che non ho più, ovviamente. Ma cosa faceva? Come amica Italia-Romania? No, ero presidente dell'INCE, ma adesso spiegarvi. No, vabbè, ma cos'è? Sappiamo cos'è l'INCE. Ah sì, spieghi cos'è l'INCE. Cos'è? Ma non è l'ICE, l'ICE. Ah, ICE avevo capito. Ah, sarà l'intergruppo parlamentare. Ma che intergruppo parlamentare? Ci spieghi, cosa ci spieghi? Poveri, noi ignoranti, alle persone ignoranti, bloccate nel raccordo anulare, cos'è l'ICE? No, sono cose importanti. No, ma le persone bloccate del sarà un ente da cancellare, sarà sicuramente qualcosa da cancellare. Non è un ente. Un istituto da cancellare. Non è un istituto. Cos'è l'istituto? È una commissione extraparlamentare che si occupa dei rapporti con determinati paesi che hanno delle problematiche specifiche e con cui noi dobbiamo tenere dei rapporti parlamentari specifici. E cosa avete tirato fuori? Ma non c'è da ridere, è una cosa storica adesso. Vabbè, ma se lei vuol ridere, vogliamo parlare dei rapporti tra l'Italia e la Romania per ciò che concerne dell'immigrazione. Se vuole la tengo qua, però se vuole ridere di questo. Però combatte come una leonessa, traffico, combatte, mi piace. Combatto voi contro il nulla, perché Palenzo che mette in discussione delle istituzioni utili. Bene, siamo ancora qui, la Zanzara da Vetro, con Andrea Scanzi, giornalista del Fatto, che ha scritto anche una seconda edizione del suo libro su Beppe Grillo, uscita da qualche giorno, anzi da qualche settimana. Laura Ravetto, deputata del PDL, cos'è che stava dicendo adesso, scusi? Non mi ricordo, sto parlando su Berlusconi. Ah, sta parlando col forum. Sì, che si dica, vai sempre lì, sempre sugli stessi argomenti, sempre le stesse. Cioè, vuole dire come parlare della missione? No, no, però. No, Simone, che peccato. Però alziamo un po' il livello, è vero. Parliamo di Bernard Henri Lévy, di Glucksmann. Ferrara contro Travaglio, tu vai in vacanza con Ingroia, sentiamo. Dammi sta risposta. Perché hanno arrestato Rina al culmine della trattativa antimafia? Vedo che la stai cercando nel tuo animo, con i tuoi occhioni. Dammi la risposta, forza, ma tu stai, sputala. Ma tu sei come? Ma sputa la risposta, dai. Perché quelli che tu dici che Giuliano, sono collusi con la mafia hanno arrestato tutti i mafiosi? Me lo vuoi spiegare? Lo vuoi spiegare agli spettatori? È tutta una puttanata quella che scrivi tutti i giorni sul tuo giornale. Perché hanno arrestato tutti i mafiosi? Okay, la domanda, Giuliano, ma no, ma se ora fai tu la domanda gliela devo ma fare. Ma l'hai già fatta appena, ma cosa dovrei rifarla? Ma sono tre anni che dai a Travaglio la parola e non gli fai queste domande. Ma chi non l'ha fatta? Che un giornalista dovrebbe farli? Non era questo, naturalmente. Tu vai in vacanza con Ingroia, questo voglio sentire. Io ci tengo al giornalismo. Non andiamo in vacanza con Ingroia. Capisci? Infatti, io vado in vacanza con mia moglie, non con Ingroia. E quindi se tu vai in vacanza con Ingroia e poi mi vieni a raccontare che sei indipendente dalle procure, ogni giorno è una falsificazione. Allora, se tu mi dici questo, se tu è una falsificazione quotidiana, e poi mi dici che sei indipendente dalle procure, sono vent'anni che pubblichi i documenti delle procure, notizie delle procure. sei il portavoce della procura. La voce che si sentiva era quella di Emanuele Macaluso. Grande, non so se l'avete, del PC, l'avete riconosciuto. Fondamentale Emanuele Macaluso. Amico di Napolitano. Vabbè, adesso la prendi pure con Macaluso, dai, dai, su. Consigliere di Napolitano. Beh, sì, sì, si vede, si sente da quello che dice. Si intuisce. Diciamo, come dire, è un gruppo di persone age, però è normale. Sì. Napolitano, quelli gli amici. Per l'amor di Dio, certo, è legittimo, certo. Fondamentale. Ognuno c'ha i consiglieri che c'ha. I corsivi Emma me li sbranavo sul Riformista proprio. Gustavo. Va bene, sentiamo due ascoltatori. Fabio dalla provincia di Milano, su. Fabio. Sì, sì, buonasera a lei, dalla provincia di Valencia. Vada. Comunque non cambia nulla. Sì, è uguale. Mi associo anche ai complimenti alla ragionare Ravetto, che è splendida in televisione, radio, ovunque. Oh, ecco, cose... bene. Splendida fisicamente, naturalmente, lei dice. No, di quello che dice non gliene frega niente, mi dica la verità. Ma mi interessa poco, perché quello che lo dice da 3-4 anni in modo continuativo, come tanti suoi amici del partito, quindi non c'è più divertimento in ascoltarla. Però visivamente assolutamente in televisione coglie, buca lo schermo, come si dice, no? Vabbè, comunque, Fabio. Due cose rapidissime, allora, e rubo poco tempo. La prima è che abbiamo dimenticato, stiamo dimenticando veramente il senso di nausea che noi tutti abbiamo verso i nostri politicanti, destra, sinistra, centro, tutti, e non ne parliamo più da un po' di tempo, ma la cosa che purtroppo continua. Io sono un ex leghista, ex berlusconiano, non capisco più una Madonna, scusi la parola, ma non si capisce dove si voglia andare. Tutto quello che accade ci sta portando ancora di più al vomito sulla politica italiana, e io non ho ancora capito se voterò a scheda nulla o andrò con Grillo, perché io preferisco un comico vero in politica, non un comico piccolo. Poi ex PDL, lega che adesso vuole votare Grillo, qual è il problema? Il vomito, Seconda cosa rapidissima, secondo me la salita di Berlusconi per la seconda volta, mi spiace per la signora Ravetto, ma per tutti i suoi compagni di partito, purtroppo porterà il PDL a crollare impietosamente, come crollerà la Lega. Italia, come... porterà Italia a crollare impietosamente, purtroppo, la nuova invenzione Italia questa partito, sera della Ravetto è stata la parola Italia. Sì, Italia, sì. La parola Italia partito, perché secondo me l'Italia si risolleverà sicuramente, ma non bene, grazie Fabio. Onorevole Ravetto, mi dica una cosa, lei è favorevole ai matrimoni omosessuali? Noi abbiamo fatto un cavolo di battaglia pazzesco. Sì, sì, no, ai matrimoni no, sono assolutamente favorevole al riconoscimento di diritti. Vabbè, che non sono riconosciuti. No, non lo dicono tutti. Come no, Cruciani no. Tutti. Non lo dicono pure tutti. Io ho avuto questa discussione anni fa con Luxuria in una trasmissione televisiva. Discussione intelligente. Luxuria è una donna intelligente. Anzi, mi manca molto in Parlamento. No, è una donna, diciamo. Ah, manca Luxuria in Parlamento. Manca Luxuria in Parlamento. Sì. Bello questo, brava. E devo dire... Più trans in Parlamento. Più Luxuria, meno Minetti. Diciamolo così. Più Luxuria, meno Minetti. Più Luxuria, meno Cicchitto. Era una che faceva le sue battaglie, non ho detto meno Cicchitto, però ci vorrebbero più Luxuria, più personaggi come Luxuria. Perché? Ma che male c'è? Non ce la fa con tutte, con me non ce la fa Cruciani, basta. Ma ci vorrebbero Luxuria, ma ce la fa a fare cosa? Ma ce la fa a fare cosa? L'ha detto lei. Non si può di parlare. L'autocompimento comunque della Ravetta è straordinario. Quando litiga con me non ce la fai, come non ce la... si autocompiace del suo errore di erotico, no, di erotico, me lo dice, è molto migliorato in questi anni, senza dubbio. È erotico nel dire con me non ce la fai. Mediaticamente è migliorato. Vabbè, allora, i diritti, cioè, lei è un istituto che si chiama Unione, in cui due vanno in comune o da qualche parte, dicono siamo marito e moglie, anche se sono due uomini o due donne. Lo farebbe, sì o no, con diritti e doveri? Lascia perdere il nome. No, io non farei un istituto, anche perché tutti gli amici omosessuali che ho non chiedono quello. Vabbè, adesso ha fatto il suo sondaggio particolare. Vabbè, io ho tutti gli amici che ho, però tutti ci siamo fissati su sta cosa ideologica, per cui siamo convinti che loro chiedano di essere istituzionalizzati. Invece i suoi amici proci dicono di no. Vabbè, a parte che si vergogni di questa cosa, no, per niente. Detto. Ho avuto l'approvazione anche dell'onorevole Concia a usare questa parola. Guardi, vabbè, io la utilizzo ogni tanto. Dico froci. Non è qual è il problema? La Bibbia non è su io sono a favore del matrimonio omosessuale. Ogni tanto li chiamo froci. Vabbè, a me da fastidio. Tu sei frocio, lo dico in maniera soft, normale. Non faccia la perbenista, la moralista. A me dà seriamente fastidio. Ah, utilizzare la parola froci dà fastidio. Sì, mi dà fastidio. A te dà fastidio utilizzare la parola froci. Non è che mi devo vergognare. Poi dipende come uno lo dice. Se uno dice a frocio, vabbè, se posso finire, se lo dice uno chiedono l'istituzionalizzazione, però probabilmente chiedono il riconoscimento di determinati diritti, e su quello sono d'accordo. Vabbè. Perché probabilmente se uno passa tantissimo tempo con una persona, sapere che in caso di insomma evento negativo non può trasferirgli determinate cose, non può prendersi cura, non può lasciare qualcosa che si prenda cura, però lo dica a diversi esponenti del suo partito. Noi siamo un partito in cui per fortuna c'è un dibattito su queste cose. Certo. Ci sono persone che sono assolutamente ideologicamente con contrari, ma lei ha mai altre baciato che sono una donna, parzialmente contrari. No, voglia... però io non amo volgarizzare questi temi, no, perché le devo dire la verità, questo è un tema serio. Lei ha mai baciato una donna? No, però sulla non guarda, c'entra niente. Sulla bocca. Questo è un tema serio, Parenzo. Sì, no, certo. Allora, per concludere, Scalzi, andresti a lavorare con Telesia pubblico? Mai nella vita. Mai nella vita? Mai nella vita. Ci sono dei colleghi che stimo molto. E Telesia no? Non lo stimo. Si è comportato malissimo. Avete lavorato insieme? No, non lo stimo più perché si è comportato malissimo. Solo perché ha lasciato il giornale? No, si è comportato molto male con Antonio Padellaro e con la redazione. Perché ha sparlato di loro, dice. Un'immagine del giornale come se fossimo tutti degli zerbini di Marco Travaglio, come se Padellaro non contasse niente. Beh, ha fatto una battaglia, ha fondato il suo giornale. E questo è legittimo, non è legittimo spalare merda sui colleghi con cui ha lavorato fino al giorno prima e che ha abbracciato fino al secondo. Anche Travaglio però non è stato proprio ma gentile. Ma tra Travaglio e Telese ci sta. Se ti sputo di profumo, gli ha detto. Non ho detto che Travaglio non ce la debba avere con Telese e Telese con Travaglio. Dico che Telese è stato scorretto con il direttore Padellaro e con tutta la redazione con cui aveva lavorato fino al giorno prima. Normale battaglia giornalistica, dai. No, è normale infangare gli ex amici e non mi piace. Auguro ogni fortuna pubblico, ma non a Telese. È meglio Lucenti Falci o Telese Porro? Dimmi la verità, è così veloce. Televisiva, ma no, questo mi nonostante tutto, devo dire ancora Telese Porro, perché è migliorato Porro, Telese meno. Telese Falci. E Piloso, perché non se lo prende nessuno? Non lo so e mi dispiace, perché io ho lavorato molto con lui alla 7 e mi ci sono sempre trovato bene. È molto bravo, molto corretto. Perché non c'è nessuno, Rai, Media, forse perché? Non lo so, probabilmente perché ha una maniera troppo libera di parlare di politica, perché è un berlusconiano, un anti-berlusconiano che non si è mai accodato all'anti-berlusconismo di professione. Forse non ha un bel rapporto con Mentana. Però a me piace Piroso, Antonello è bravo, sono convinto che lo troverà un posto. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino. Hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Perciò no, non ci sto, ma il culetto è mio perciò. E invece sì, una bella punturina con la risata di Dell'Utri in sottofondo. Una bella punturina ci vuole, bella tosta, sì, A Giuliano Amato. A Giuliano Amato. La punturina della serata. Signor Giuliano Amato, 22.000 euro di pensione, secondo lui lordi. E poi dice che nel 2001 è stato pressato per rientrare. Tutti che lo pressavano, diceva, vai, ti prego, Giuliano. Salva il paese, signor Giuliano Amato. Ne sentivamo il bisogno nel 2001. Non ne sentivamo il bisogno. Già aveva fatto il suo prelievino dai conti, ricorda, no? Signor Cruciani, quando era il governo, signor Amato, il prelievino dai conti. Ma il culetto è mio, Amato, mi volete far sentire Amato, sì o no? Da allora sono venuto svolgendo varie attività e sempre vi assicuro perché mi è stato chiesto di farle, sono stato addirittura pressato perché le facessi, compreso il rientro in Parlamento nel 2001. Che io non desideravo fare. Il dottore ti dirà. Non desideravo fare, mi fa impazzire questa frase. Però è di un autorevolezza, che ci sono venuto svolgendo alcune attività, ma pensate da Trecani, signor Amato. C'è ancora caso. Siamo qui 800 24 00 24, fra poco tonnellate di ascoltatori. Prima beccatevi i titoli del mitico TG3 diretto da Bianca Berlinguer. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. No della Corte europea alla legge sulla procreazione, incoerente perché vieta la diagnosi preimpianto, accolto il ricorso di una coppia portatrice sana di fibrosi cistica. Dubbi di alcuni ministri sul decreto sanità che rischia il rinvio, qualche polemica e ironie per le misure su fumo e bibite. Il ministro Balduzzi al TG3. Bersani, meglio Vendola che Casini, lo show di Benigni alla festa democratica, frecciate a Grillo, sondaggio del TG3 sullo scambio di accuse tra il PD e il comico. Domani riunione del comitato ristretto sulla legge elettorale, ma il relatore avverte sui punti critici i partiti non hanno ancora scelto. L'Europa pronta ad aiutare Madrid, boom per i titoli spagnoli e italiani, Fitch l'economia italiana a -2, il prossimo anno a 0, borse in rosso sullo spread. A Cagliari manifestano insieme per difendere il lavoro gli operai dell'Alcoa e quelli del Sulci, i minatori, andremo avanti fino alla fine. L'uragano Isaac arriva in Louisiana. Obama dichiara l'emergenza. I repubblicani aspettano il passaggio della tempesta per lanciare la sfida alla Casa Bianca. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino e hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Che coro? Ma il culetto è mio, è mio, e perciò la nonno non ci sto. Si preparino gli ascoltatori. Di Pietro Berlusconi mi faceva vergognare di essere italiano. Addirittura. Tu ti vergognavi di essere italiano? Beh, un po' sì, sinceramente. Tu ti vergognavi di essere italiano quando c'era Berlusconi? Un po', bisogna dirlo sinceramente. Un po' quando andava in giro, faceva le corna, mi divertivo da morire. Però insomma, Presidente del Consiglio, e andava ti vergognavi di essere italiano quando c'era Berlusconi? Ma sì, perché cosa c'è di sì, ma secondo me non te fregava niente. Ti divertivi con un pazzo. Mi divertivo con un pazzo, sì. Però dopo un po', uno ci mesi, c'è la casa. Ma perché devi andare in giro e fai corna e il capò e turista della democrazia e barzellette e a mano sul ma dai, non si è un presidente del consiglio, su, non è un cabarettista. Vai, comunque Di Pietro, sentiamo. Tra Monti e Berlusconi io contesto la politica del governo Monti, ma viva il Dio, Berlusconi mi faceva vergognare di essere italiano agli occhi del mondo, per cui molto meglio la situazione con Monti che con Berlusconi. Questa è il solito colpo al cerchio una botte, perché Di Pietro ogni tanto cerca, no, di esprimere qualche frase istituzionale. Perché no? Lui ha votò la fiducia in prima battuta al governo Monti. Però non adesso credo, Sì, assolutamente. L'Italia dei Valori votò la fiducia al governo Monti. Votò la fiducia datemi al governo meglio Monti di Ferrara, datemi il meglio di Ferrara contro Travaglio ieri sera da Mentana. Il meglio di Ferrara. La cosa migliore, qual è il passaggio migliore? Sceglietelo voi, regia da Milano, sceglietelo voi, dopo mando gli ascoltatori. Il meglio, voglio il top. È inutile che cerchiate di sdrammatizzare. Siate conseguenti. Travaglio, se sostenete adesso vorrei parlare io, se permetti, perché non sono però venuto a sentire dei comizi di Travaglio o a sentire litigare di Pietro e Boccia, mi rompo i coglioni da morire. Poi dico fottutissimo. No, non sono sboccato, sapessi mi sono rotto i coglioni di sentire dei comizi di Travaglio. Ha detto finalmente la verità e nessuno lo interrompe. Che cazzo di conduttore sei? Travaglio ha detto: Ingroia ha fatto un golpe. Benigni, mi ero dimenticato di Benigni, fax da Grillo con parolacce, ieri alla festa dell'unità, vediamo. Vi porto tra l'altro in questo momento che c'è questa unione e questa amicizia, anche il nostro segretario del PD, vi porterò sulla roulotte, ho ricevuto proprio un fax, vi porto i saluti di Beppe Grillo, mi è arrivato qua il fax, proprio quando ero in roulotte ha detto leggilo Benigni, siamo amici da tanto tempo, siamo colleghi e quindi non l'ho ancora letto, ha detto caro Bersani e cari elettori del PD, buonasera. Vi volevo salutare e dirvi di andarvene tutta a pezzi di me, piduisti, ma falli, ma vaffanculo, tutti strumenti, va bene, no, è una cosa personale, ma la leggo dopo, questo. Pensavo fosse un'altra cosa. Ancora, Bersani ha rischiato di sbandare col carro funebre, reagisci. Quando gli ha dato del cadavere a Bersani, Bersani si è arrabbiatissimo. Non sapete, quando è venuto qua alla festa del PD per rispondere, ha nervosissimo, ha rischiato di sbandare col carro funebre, una cosa tremenda. Ho detto, Pierluigi, ma dov'è Pierluigi? Non lo vedo. Ma veramente, dare del morto a Bersani, ma devi reagire, oh, se ci sei, batti un colpo, dov'è Bersani? Bersani, oh, alzati e cammina, reagisci! Ora un piede ti fa male. Intanto si è fermato il decreto Balduzzi, quello sulla tassa, sulle bibite. Questi sono come i politici, ogni tanto annunciano, poi ritirano, eccetera. Intanto leggevo da Twitter: la Lega Nord si ribella alla nuova tassa sulle bibite gassate. Noi corrotti e scoregge ci lavoriamo. Signor Bossi, sì. Ezio da Ravenna, buonasera. Buonasera. Dica. Mi scusi se la disturbo. Stavo ascoltando qualche discorso mezz'ora fa, poi è passata mezz'ora. Quale disturbo? Lei chiama, non è che ci disturba. No, lei mi piace perché è veramente una zanzara, ma stavo sentendo prima quella del PDL, che era il Ceso, che aveva già detto il nome e non ho capito. Ravetto. Vabbè, Ezio, vado al sodo, su. Quello che voglio dire è che in Afghanistan hanno decapitato 17 persone perché ascoltavano una musica e ballavano. Sì. A Ekaterinburg hanno fatto fuori gli zar. Lei è in viva voce, ha l'auricolare, che cos'ha? No, prenderà poco il telefono, sono in camera dell'albergo. Allora? Allora, voglio dire che questa gente deve stare attenta a dire tutte queste cazzate, comportarsi come se fossimo in un circo. C'è gente che muore di fame, non c'è lavoro, c'è disoccupazione. Sì, che c'entra quello che che c'entra quello che è successo in Afghanistan con quello che le dichiarazioni delle politiche? Qualche persona che si stufa, guarda, i problemi sono diversi di queste cazzate che dite, non lei che le provoca, ma loro che rispondono e ci credono. Sì, ma voglio dire, non è che si passa all'azione con la decapitazione come in Afghanistan. Quella è la cosa, ma non lo so come finirà, perché l'Italia sta andando male, c'è povertà. Vabbè. C'è povertà. Cioè, guarda, lei in albergo. Guardi che le cazzate non le dicono solo i politici, le dicono pure gli ascoltatori che intervengono. Quando dice, uno dice c'è povertà, ma che vuol dire c'è povertà? Cosa vuol dire, Ezio da Ravenna, c'è povertà? Che non ci sono più soldi di una volta. Non ci sono più soldi di una volta. Non ci sono più soldi, non si va in vacanza, non si può permettere niente. Io ho visto un sacco di gente in vacanza. Sì, ascolto delle cose di gente, Berlusconi che deve tornare, l'Aminetto e quell'altro. I problemi sono diversi, non sono questi. Vabbè, i problemi sono altri. Benissimo, Nicola da Reggio Emilia, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. C'è ancora la Ravetto Cruciani in studio? No, è andata via. No, è un peccato, perché volevo soltanto ricordarle che purtroppo la gente normale timbra un cartellino e prende una miseria come stipendio. Quindi, e allora? Che ne dicano loro che... No, a proposito dell'assenza dei parlamentari, insomma, i lavori. Allora sarebbe anche ora, insomma, che i loro stipendi si fossero parametrati a quello che fanno veramente, insomma, ecco. Poi lei dice ci vorrebbe un metodo per sanzionare quelli che non vanno in Parlamento, lei dice, no? Beh, insomma, cioè, chi c'ha il 93% di assenza. Proviamo a chiamare Gaglione, su, da Milano, chiamatemi signor Gaglione. Ma ci mancherebbe altro che ci vorrebbe un metro, ma stiamo scherzando? Ma guardi che noi qua, io sono un operaio metalmeccanico, lavoriamo per due soldi, sa? Cioè, non è che non possiamo permetterci il lusso. Ricordi il suo stipendio, lo ricordi, bravo, questo è il servizio pubblico. Poi un'altra cosa che volevo dire. Quanto prende lei di stipendio al mese? C'entra il servizio pubblico, chi se ne frega. Storie di vita. Senta Cruciani. Storie di vita. Un attimo. 3. Informazione gratuita. Ha staccato il telefono, Ha fatto uno squilletto, Uno squilletto, uno squilletto. Gaglione, esatto. Riproviamo un attimo. Signor Gaglione, forse abbiamo sbagliato a dire il nome. Siamo messaggino in segreteria, va? Quando parte la segreteria telefonica. Vabbè, rifacciamo il numero. Nicola, diceva? Poi un'altra cosa. Io l'altro giorno ero presente a Reggio Emilia, insomma, vivendo qua, all'apertura della festa democratica, insomma. E ho sentito Bersani dire che, insomma, tra tante cose che ha detto, secondo me è sbagliata quella sui Grillini, perché a Grillo avresti potuto invitarlo là e fare un contraddittorio anche forte, volendo. Però una Grillo volta non fa contraddittori. Vabbè, comunque, dunque passiamo dopo. Allora, io ho pensato... Passiamo dopo anche... passiamo alla prossima cosa, insomma, che volevo dire. Siccome ho sentito che la riscossa deve partire da Reggio Emilia, perché è la capitale della democrazia in Italia, più o meno, giusto? Parole sue. Allora... Io ho pensato la prossima volta, anziché non sapendo per chi votare... Pronto? Sì, chi è che parla? Ah sì, salve, buonasera Gaglione, come sta? Tutto bene? Arenzo? Come? Sì, Gaglione, come sta? Salve, scusi che avevamo disturbata. Tutto bene? Sì, benissimo. Grazie, sono Par Enzo, buonasera. Volevo chi capire... parla? Sì, d'accordo. Però volevo capire questo, Gaglione... Ma non sento bene, scusi. Gaglione, mi sente? Perché è importante. Niente. Andiamo oltre. Paolo da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Pronto? Dica. Sì, salve, buonasera. Telefonato solo per farle un appunto. La trasmissione mi piace, è carina e divertente. Sì. Noi la ascoltiamo mentre ceniamo con le mie figlie. Cioè, l'appunto vero è che dite troppe parolacce. No, veramente non le diciamo per niente, guardi, no, rispetto a quello che... Io adesso rispetto... non so il suo ospite, se è ancora presente. Qual è la parolaccia che le dà fastidio? Oggi, se è una parolaccia. No, oggi a me no. Dunque, diciamo, fortemente sono grande e vaccinato, le parolacce non mi danno fastidio. Certo, però, diciamo, non che c'è dubbio. La sua trasmissione secondo me sarebbe perfetta anche senza. Sì, può darsi, ma diciamo che usiamo il linguaggio ogni tanto che usano anche i politici, come ha sentito prima da Giuliano Ferrara, opinionisti, eccetera. Diciamo, è un problema loro. Beh, un problema, sanno parlare in modo diverso. Può darsi che sia un problema nostro. Comunque non c'è un profluvio di parolacce. Ogni tanto c'è qualche parola che lei userà anche nel privato. Ho notato che negli ultimi mesi ne fate un uso, diciamo... No, guardi, no. Normale uso colloquiale. Normale. Ma perché lei sente la trasmissione con i suoi figli? Sì, con le mie due bambine. Con le due bambine. Mi dispiace, non è una trasmissione... Come la... non so, lo sai, il famoso film Non è un paese per vecchi no? Sì, esatto. Non è una trasmissione per bambini, su questo non c'è dubbio. Io lo dico con grande affetto, naturalmente, caro Paolo, con grandissima affetto. Però, bene, ripeto, potrebbero anche ascoltarla, perché poi comunque discutiamo. Lo so, ma ogni tanto scappa qualche parola, è normale che sia così, è la vita. Come nella vita, quotidiana, nella vita quotidiana. Vabbè, se lo dite voi, comunque, insomma. No, se lo diciamo comunque noi. Continuo... Ma non è che lo staremo diciamo più noi. Attenti, però a voce alta bip quando direte le parolacce. Grazie Paolo. Gianni dalla provincia di Brescia. Gianni dalla provincia di Brescia, buonasera. Buonasera. Io intervenivo per quanto riguarda l'aspetto Berlusconi Began, anche se sono un po' in ritardo, perché se è vero quello che si leggeva qualche anno fa, Berlusconi ha subito un intervento alla prostata. Sì. E questo intervento l'ha subito contemporaneamente mio fratello e io l'ho seguito tecnicamente. Che significa contemporaneamente al suo fratello? Scusi. Sì, nello stesso periodo e nello stesso ospedale. Sì, avevano letto accanto, scusi? No, però sapevo che c'era Berlusconi per il movimento che c'era di guardie del corpo. Allora volevo dire, gli esiti di questo intervento, per farla breve, se uno fa una buona ginnastica riesce ad avere ancora un'erezione, ma non ha mai più l'eiaculazione, quindi Berlusconi non può procreare. Tutto quel casino lì che stanno facendo sulla Began, dichiarare che... lei dice che non può procreare. Lei sa che poi ogni operazione è diversa dall'altra, non è che l'operazione che ha subito suo fratello... Perché, no, sicuramente, io intervengo perché in quel periodo lì l'operazione, io mi ero informato e poi diciamo sono un po' nell'ambiente, l'operazione che aveva subito Berlusconi tecnicamente era la stessa che aveva subito il fratello, sempre se è vero quello che mi hanno detto. Il va bene, grazie. Per questo. Grazie. Intanto Alfredo Mantovano, un altro magistrato, attacca Ingroia giustamente sul Foglio, credo di oggi, nel momento in cui Ingroia fugge dal processo della sua vita, dice a tutti che è convinto che quel processo non reggerà davanti ai giudici e per questo lo abbandona. Un solo modo per dimostrare che non sta fuggendo dal processo: revochi la domanda per il Guatemala e lo affronti come PM del dibattimento. Ha perfettamente ragione. Non mi moleste moschito. Why don't you go home? Non mi moleste moschito. Let me eat my burrito. Non mi moleste moschito. Why don't you go home? Pronto? Sì. Sì, pronto. Signor Forconi? Sì. Buonasera, come sta? Tutto bene, tutto bene. La Zanzara? Sì, avevo intuito. Ma chi è Forconi? Lo conosce, signor Forconi? No, il cognome non promette niente di buono. Comunque, chi è? Marco Forconi, sì, nome omen, si può dire, no? Forconi? Sì, sì, però del movimento dei Forconi, Beh, però Forza Nuova con Movimento dei Forconi. No, Forza Nuova, no, ancora. Perché Forza che c'ha Forza Nuova? Nuova? No, che c'ha Forza Nuova? Perché? Mi viene da vomitare. Perché ti viene da vomitare? Perché non ce la posso, perché sono razzisti, sono... No, non mi piacciono. Posso dire che non mi piacciono quelli di Forza Nuova? Sì, puoi dirlo. Posso, senza offendere la sensibilità del signor Forconi? Lo invitiamo perché, Cruciani, il signor Forconi? Perché mi spieghi perché. Forza Nuova... Perché il contributo di Forconi, di Forza Nuova, oggi è così fondamentale? Se avete finito, posso iniziare io? Aspetti, Forconi, scusi, non è che può dettare i tempi lei? No, io non ho detto nulla, ma lei poi non mi potete permettere di offendere il movimento che rappresenta. Ma aspetti, ha parlato Parenzo, un attimo solo, Forconi, no, non abbiamo offeso nessuno. Chi ha parlato? No, sì. Parenzo, sì, sono io, scriva il nome, faccia una bella lista, Parenzo, di proscrizione, sì. David Parenzo, sto a Roma, le do pure l'indirizzo, mi venga a prendere, Forconi di Forza Nuova, mi venga a prendere. Lei è una persona simpaticissima. Se lei Parenzo. No, perché sono pure ebreo. Venga a prendermi. Non posso piacere a tutti quanti. Allora, Marco Forconi. Non parliamo dell'argomento di oggi. Un attimo solo, Forconi. Un secondo, Forconi. No. Forconi. Allora, stavo spiegando, giusto appunto. Marco Forconi, non sono così. Non mi scaldo molto su queste cose come si scalda Parenzo. Marco Forconi, coordinatore regionale di Forza Nuova in Abruzzo. Caro Parenzo, signor Forconi. Forza Nuova in Abruzzo ha fatto un bel manifesto. Ecco. Bel manifesto, diciamo, per modo di dire. Appunto. Un manifesto in cui c'è un'immagine di una una famiglia con i figli, se non sbaglio, signor Forconi. All'Italia non servono gli omosessuali. Qual è il titolo di questo manifesto? Siamo precisi, l'Italia ha bisogno di figli, non di omosessuali. No, vabbè, diciamo, di non è che precisi. Sia molto diverso. L'Italia ha bisogno di figli, non di omosessuali. Il rapporto tra queste due cose, francamente, io non lo vedo. Cioè, siccome ci sono io, se vuole. No, aspetti un attimo. Fare qualsiasi intervento che volete certo, fare, anche non offensivo, c'è dubbio. No, che offensivo, che c'entra? Poi uno può ritenere il manifesto di una violenza inaudita. Allora, voi avete anche scritto e detto che provate ribrezzo e repulsione per quelle che considerate una patologia. Io provo ribrezzo e repulsione per le ostentazioni che vengono fatte. No, per gli omosessuali, non dica per l'ostentazione. No, non l'ho mai detto. Non l'ho mai come detto, no? Attenzione. Per quelle che consideriamo una patologia, Forconi, non si tiri indietro adesso. Ma io perché? Mi scusi, ma lei, scusi, io che faccio il giornalista, non pubblico io le mie notizie, se i giornalisti pubblicano quello che vogliono loro non è un problema. Voi mi state ascoltando, registrate questa chiamata e vi dico che io provo repulsione per l'ostentazione e per l'esternazione dei gay. No, lei prova ribrezza, a lei fanno schifo gli omosessuali, Forconi, su, diciamo le parole in bocca che io perché la realtà, voi adesso non perché, non perché lei vuole fare audience sulla mia pelle. No, ma che c'entra, non ammanti questa cosa, non le piace il gay pride, pure a Giovanardi non piace il gay pride, però, allora, scusa, allora siamo già in due, siamo, qual è il problema? Ma non è questo il punto, proviamo ribrezzo e repulsione per quella che consideriamo una patologia, lei non parla di gay pride, lasciamo perdere il gay pride, a lei prova ribrezzo. Cioè, repulsione per i gay. Io provo ribrezzo e repulsione, no perché è una patologia, provo ribrezzo e repulsione, punto, perché ci sono esternazioni, poi è una patologia, è riconosciuta una patologia. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha riconosciuta da chi? Ma mi scusi, vogliamo entrare nell'ambito scientifico? Vogliamo io porto ribrezzo per il movimento di Forconi. A me fa ribrezzo Forza Nuova, posso dire? A me fa ribrezzo Forza Nuova, ad esempio, mi fa molto ribrezzo. A me fa ribrezzo lei, qual è il problema? Sì, fa ribrezzo, no, però scusi nuova, Forconi, perché... ma lei come fa a dire che è una patologia? Soprattutto, come fa a dire che l'omosessualità è una patologia? Scusi. Ma perché, scusi, lei mi può dire il contrario? Ci sono studi scientifici. Ma certo che le posso dire. Ma quali come studi fa? Scientifici ma dove, di chi? Ma scusi, ma lei dove li va a prendere? Sono malati, gay. Sentire queste notizie, lei. I gay sono malati, lei dice. Come ha detto, israeliani, non ho capito. Sì, lei va a prendere queste notizie sui siti israeliani, anziché andare a prendere sui siti civili, sui siti israeliani. Sui siti israeliani sempre da loro che partono queste informazioni così denaturate, è normale, no? Informazioni denaturate. Sentiamo, che partono dagli israeliani, quali sarebbero le informazioni denaturate? Scusi, quali sarebbero le informazioni denaturate? Vogliamo parlare di omosessuali o vogliamo parlare del razzismo di Israele? Mi scusi. No, mi scusi, ma che c'entra? Ma lei dice cosa c'entra cose... Israele con i gay? No, mi faccia il collegamento, lei che è un tecnico, un esperto di questa materia. Un collegamento molto preciso. Tra Israele e la questione omosessuale, sì. Un collegamento molto preciso. Signor Forconi. Siccome io sono antisionista, che è ben diverso dall'essere antisemita, riconosco che purtroppo nell'informazione che viene partorita, soprattutto in molti siti, e di questi siti molti sono controllati anche da... diciamo persone, da esponenti dell'intelligenza ebrea, diciamo, possiamo dirlo, non è un'offesa dire ebreo, no? Allora io vedo, mi faccia parlare, poi lei mi può offendere quanto vedo che, vedo. Io vedo che comunque diciamo delirando, molte volte, diciamo. Delirando. Lei sta delirando, comunque vabbè, il controllo dell'informazione da parte dei sionisti. Ma lei parla come la difesa della razza. Forconi, lei parla come la difesa della razza. Lei è da... Ma che me ne frega a me della difesa della razza? Signor Parenzo, ma lei si dovrebbe vergognare quando dice questo. Ma che me ne frega a me della razza? Il problema, voi dite razza, etnia, queste cose qui. Io sto parlando della natura omosessuale. Adesso, tra poco andiamo a finire sull'Olocausto, che non c'entra assolutamente nulla. Ma scusi, ma è lei che ha fatto un collegamento? Ma è lei che ha per carità, si sciacqui la bocca. Lei sta gestendo una trasmissione che non c'entra nulla. Stiamo parlando degli omosessuali, punto. Ma è lei che ha parlato di ebrei con gli omosessuali? Che c'entrano gli ebrei? Ma lei che mi ha fatto la domanda all'integrazione di quello che ho detto. Che vergogna. No, però scusi, adesso non giochi con le parole, che sono più bravo di lei a giocare con le parole. Il punto non è questo. Allora può scendere in politica anche lei, allora. Ma guardi, avrei sicuramente più successo di quanto ne abbia lei con Forza Nuova in Abruzzo. Questo non c'è da dire. Però guardi, il consenso elettorale non è spesso commisurato all'intelligenza. No, ma infatti l'intelligenza, io non ho mai parlato di intelligenza. Io dico una cosa però. Cosa c'entra i gay con Israele? Me lo spieghi? Io gli ho spiegato, se non mi avete non abbiamo capito, scusi. Allora, io le spiego molto tranquillamente, molte volte, certe cose partono, questo è purtroppo è scientifico, sul web soprattutto, partono dei siti controllati da persone, da esponenti dell'intelligenza israeliana ed ebrea. Ho detto, cioè, esponenti dell'intelligenza israeliana controllano siti gay, non ho capito. No, certe guardi, informazioni che riguardano molto, non ha capito molto bene, no, ma no, faccio, ma è una cosa pazzesca, faccio un discorso molto più ampio e faccio un discorso sui massimi sistemi. No. Allora, scusi semplicemente sono... detto va bene, guardi, no, scusa, mi dica dico una cosa e poi ripeto, può intervenire. Volevo semplicemente dire che in un sistema come quello attuale, in un sistema mondialista, multiculturalista, multiraziale, quello che vuole, diciamo che la pietra tombale sulla conservazione, sulla tradizione, ce la mettono persone che, guarda caso, hanno riferimenti specifici con l'intelligenza ebraica, tutto qua. Ebraica, va bene. Israele è un pensiero, lei lo può condividere o meno. È un suo delirio, è un pensiero, non è? Da una persona che delirio, ha bisogno di cure, il sistema sanitario nazionale. Quindi si prenderà cura di lei. Ho bisogno di cure, o sono affetto da patologia, invece l'omosessuale ci è andato molto vicino a questa, nella sua ricostruzione, signor Forconi. Comunque io voglio capire una cosa da lei, perché, cioè, dunque, se sono malati, vanno curati tutti quanti, secondo lei? Come vanno curati? Come faccio io a curare un omosessuale? Non ho capito, che faccio, lo curo a calcio e pugno l'omosessuale? Dobbiamo non lo so, magari punto. Lei ha una ricetta. Non c'è una ricetta, che cosa vuole che le dica? Si vuole sentire la canzone Luca Ragheri così guarisce, che cosa vuole che le dica, insomma? Esiste. E che dobbiamo fare con gli omosessuali? Esiste, bisogna, ovviamente, io ho scritto anche in un comunicato più volte, siccome molti leggono soltanto quelli che vogliono leggere, io ho semplicemente detto che rispetto la sfera privata sessuale di qualsiasi uomo, di qualsiasi donna, ma posso non condividere? Sono libero di non condividere. Cos'è che deve condividere? Cos'è che deve condividere? Scusi, ma cos'è che deve condividere? Cioè, l'idea non condivido l'omosessualità, perché lo ritengo che sia. E cosa farebbe con l'omosessualità? La bandirebbe? Contrario all'ordine naturale delle cose, punto. Benissimo, la vieterebbe per legge, come succede in alcuni paesi? Io ho semplicemente detto nei comunicati stampa che voglio. Ma chi se ne frega dei comunicati stampa, Forco? Dai, su. Il problema non è i comunicati stampa. Il problema non è i comunicati stampa, Forconi. Su, abbia pazienza. Io le sto chiedendo cosa farebbe. Cosa farebbe con l'omosessuale? Così com'è, gli omosessuali non vanno toccati. Non bisogna fare nulla all'omosessuale. Ho semplicemente posto un problema giuridico, non un problema fisico. Dunque, non è discriminatorio. E che bisogna fare? Pensa quando io impedisco con un atto violento una determinata persona. Io non proibisco. Comunque, guardi, si arrenda, è pieno di froci da parte. Nel suo palazzo, al terzo piano, al quarto piano, al piano terra, lei è circondato da froci, da omosessuali. Lei è circondato. Probabilmente, probabilmente anche chi sta parlando con me non è un problema, insomma. No, guardi, non ho queste tendenze comunque, sessuali. Non mi vergognerei per niente. Non si deve offendere se le dico ma guardi, è inutile, non mi offendo per nulla. Guardi, comunque, non mi offendo è un bene nulla. Che queste persone siano in circolazione. Perché? Sì, perché almeno sappiamo dove sono. Ma dove sono? Che me ne frega. È importante che non siano nella clandestinità. Ecco, questi movimenti. Tu vorresti bandire Forza Nuova? Tra poco succederà come Alba Dorata in Grecia, sino a Parenzo, si rassegni. Cioè? Basta leggere i siti, vedere, insomma, il giornale, quello che succede. Tra poco succederà come Alba Dorata in Grecia, non c'è dubbio. Se direte le stesse cose, sarete messi fuori legge in base alla legge Mancino per istigazione all'odio. Guardi, per mettere fuori legge c'è bisogno comunque di un procedimento già alle spalle. Poi, evidentemente Forza Nuova, non avendosi presente alle elezioni, assessori e sindaci, non credo che ci possa arrivare a questo. Però Forconi, scusi un attimo, però lei deve portare il suo ragionamento alle estreme conseguenze, altrimenti Alba Dorata. Io sto rispondendo alle domande. Allora, benissimo. Lei dice l'Italia non ha bisogno di omosessuali, non ha bisogno di figli, eccetera, eccetera. L'Italia lei immagina un mondo di omosessuali in cui non si fanno più figli, cosa ridicola, naturalmente, però è inutile che lo dico che è ridicola, perché è un paradosso. Benissimo. Allora, lei cosa farebbe per fermare la diffusione dell'omosessualità? Cosa farebbe? Domanda. Perfetto, io prima ho detto sentiamo intellettuale, sentiamo. Ho posto un problema politico, ovvero invece io non me la prendo con gli omosessuali. Io dico che al giorno d'oggi dovrebbero essere fatte delle leggi molto di più rispetto al passato in favore, a sostegno della famiglia tradizionale. Vabbè, ma quello è un altro discorso, ma sugli omosessuali lei che farebbe? Quello è il problema, è quello. Tutti i movimenti. Senta, tutti se lei vede due uomini o due donne che si baciano per strada, che farebbe? cosa vuole davanti che a faccia? Suo figlio. Io mi giro e se ho un figlio non gli faccio vedere la scena. Se vedo che la persona ostenta, mi provoca. Sì. No, perché ad un bacio è una provocazione. Gli tiro un pugno, è normale che gli tiro un pugno, ma che cosa vuole che le dica? Io gli tiro un pugno. Io le tiro un pugno se quella persona mi provoca e mi tocca, perché vuole che vuole vedere. Ma come che... prova? Tocca! Ma chi la tocca? Ma chi la tocca? Ma nessuno la tocca, ma neanche con una lenza. Lei ma io manco con lei no, ma manco con i guanti, ma guardi, la tocco io, non ma manco la mano con le do. Ma nemmeno io la toccherei con la cannuccia dietro l'angolo, non è quello il problema. Io le sto Forconi, lei mi sa che ha avuto esperienza omosessuale nel passato, Forconi. Non ho capito. Lei mi sa che ha avuto esperienza omosessuale nel passato. Io ho deve essere successo qualcosa nella sua vita, Forco. Guardi, sì, Cruciani, giusto? Cruciani. Sì, sì. Io ho scopo sicuramente più di lei, quello è poco ma sicuro. Ma che ne sa lei, scusi? Ma che c'entra? Ma è lei che ne sa che io ho avuto esperienza omosessuale? Ma perché mi sa? Perché quando si dicono queste cose, ci sono delle cose nella vita che sono successe, delle repressioni, delle cose che sono successe. Può darsi che anche ce l'abbia avuto lei, allora. Ma io non Forconi. Dico le cose che dice lei, scusi, abbia pazienza, non dico le cose che dice lei. Cosa fa sto lei sta agendo per paradossi, mi sta accusando che io potrei aver avuto esperienza omosessuale. No, sto dicendo chi dice queste cose di solito, scusi, signor Forconi, chi dice queste cose che i gay sono quelli che sono malati? Il potenziale è più accettabile. No, comunque non ho avuto esperienza omosessuale e sicuramente non le avrò, questo è poco ma sicuro. Anche sicuramente non l'avrà. Lei dovrebbe dire vivo in un ambiente sano, vivo in un ambiente tradizionale dove loro viene rispettato. Perché quello è insano invece? Non ho capito. Quello è insano, l'ambiente sicuramente l'omosessualità la considero una perversione. Una perversione, sì. C'è due uomini che fanno l'amore, secondo lei dovrebbe essere vietato per legge? Che significa uomini che fanno l'amore? Due uomini che fanno l'amore non deve essere vietato per legge. Due uomini che fanno l'amore lo fanno in maniera privata. Due uomini. Beh, certo, anche lei con sua moglie lo fa in maniera privata, o con la sua fidanzata, certo, scusi. Certo, ma lei non posso andare, non posso entrare nei letti delle persone e dire e strappargli il pisello e dire no, tu non fare l'amore con un uomo. Ma assolutamente no, non c'entra nulla questo. No. Non c'entra nulla questo, capito? Vabbè, io non c'entra semplicemente nulla. Semplicemente avendo un problema giuridico, punto. Basta. Giuridico. Ma comunque sono avanti. E adozioni. Ma questo Forconi, questo signor Forconi con cui stiamo parlando sin da troppo tempo, secondo me, ma è stato eletto da qualche... chiudere, non è... è stato eletto quello da qualche... l'opinione di Parenzo? Sì, io sì. Allora? A me fanno questi Forza Nuova, mi stanno sulle barre, che ti devo dire? Ma è stato eletto da qualche parte sto Forconi? No, ancora no. Ah, ecco. Ancora no. Però potrebbe, se vogliono fare Alba Dorata... Cosa fa fare... il coordinatore regionale? Di Forza Nuova, hanno fatto dei manifesti... Ma brave persone sono queste, mi pare, no? Signor Forconi, non l'abbraccio, però la saluto. Neanch'io. Però la saluto. Nemmeno io abbraccio Parenzo, però vi saluto cordialmente. E redimetevi. Ma redimetevi. Ma si redima lei, che ha detto delle cose, ha detto delle cazzate pazzesche. Su. Abbasso l'omosessualità. Ma che c'entra? Ma che viva l'omosessualità! Viva l'omosessualità, abbasso l'omosessualità. Ma che c'entra? Arrestatelo subito. Paolo da Palermo, buonasera. Paolo, buonasera. Ride. Buonasera. Ascoltate, io ieri sera ho assistito a un intervento di un nostro, come si dice, un altro italiano. Ah, tra l'altro qualcuno ci segnala che l'anagramma di Forconi e Frocioni, Ah, veramente? Sì, l'anagramma di Forconi e Frocioni, stupendo, un Twitter che mi è arrivato adesso. Forconi, se mi stai sentendo, l'anagramma è Frocioni. Allora Paolo, dica. Mamma mia, adesso chi lo tiene a Forconi? Non lo tiene nessuno. Adesso l'ha scatenato. Io gliel'avrei detto in faccia, solo che abbiamo abbassato il telefono e mi è arrivato questo tweet adesso, straordinario. E vabbè, però i nostri politici sanno bene che il target è questo, quindi si possono permettere delle cose ben più peggiori di quelle che ha detto Forconi, perché lo metto lì come folklore. Ma quello che volevo dire io è un'altra cosa. Ieri ho assistito a un intervento di un altro radioascoltatore che faceva riferimento alla Polverini, alla governatrice della regione Lazio, dicendo che avrebbe occupato un'intera ala di un ospedale. Sì, all'ascoltatore devo chiedere anche un po' scusa, perché effettivamente io poi questa notizia non la sapevo, era uscita, non è stata confermata, tuttora non è stata confermata dall'interessata. E pare che abbia occupato un intero reparto per un piccolo intervento che ha fatto di 30 posti letto per una cura che ha dovuto che ha dovuto fare. Questo è successo alla signora perché Polverini. Perché un intero reparto? La signora Polverini. Non lo so. La Polverini in ospedale occupa un intero reparto, 30 posti letto. Questo era stato addirittura chiuso per il periodo estivo. Che sta cogliendo l'occasione per chiedere scusa al radioascoltatore, perché cioè, non voglio difendere l'ascoltatore ha detto un'altra cosa. Sì? L'ascoltatore ha detto un'altra cosa, perché ha detto la Polverini è stata ricoverata per un intervento, andato diciamo nel dettaglio. L'ascoltatore ieri non si sapeva esprimere in maniera adeguata, diciamo questo. Intanto l'anagramma di Forconi, scusi un attimo, l'anagramma di Forconi non è Frocioni, perché Frocioni ne ha due di, per cui non è l'anagramma in realtà, però è evocativo, quasi l'anagramma, diciamo. Paolo, allora? I salti di gioia Forconi a questo punto. Eh? Dico, farai i salti di gioia Forconi, arrivato a questo punto che non sì, so non, ha, non ha il suo anagramma, non è Frocioni. Stava già per cambiare il cognome. Voglio dire, però ieri il dibattito, diciamo che non mi è piaciuto tanto, in quanto con tutti i tagli che si stanno facendo nella sanità, con gente che per prenotare una visita e aspetta mesi e mesi, e poi si arriva il governatore della regione Lazio che occupa un'intera ala per fare un intervento, mi sembra che insomma c'è quanto dire, sia come notizia che come anche io la vedo anche come una caduta di stile, però proprio una caduta a stile libero. Boom. Ma guardi, fosse confermata, bene. Allora scusi, la notizia è stata data in questo modo: il reparto era stato addirittura chiuso per il periodo estivo, complici tagli alla sanità e dunque la penuria di fondi per garantire un'adeguata rotazione di medici e infermieri anche durante le ferie estive. Improvvisamente il suddetto reparto è stato riaperto per ospitare la Polverini, se si pensa che i comuni cittadini devono mettersi in attesa, affidarsi ai privati, eccetera, eccetera. Oltre al reparto, la direzione pare che abbia messo a disposizione anche 3 infermieri per garantire un'assistenza 24 ore su 24. Gli eventuali straordinari saranno pagati ovviamente dai contribuenti. La notizia è uscita in questo modo su un sito, non so quanto ci sia di romanzato, quanto ci sia di vero in questa cosa qui, non mi pare di aver visto smentite, magari mi sbaglio. Francesco da Foggia, buonasera. Buonasera. Dica. Sapete qual è la differenza tra le cosiddette puttanate che dice Marco Travaglio mentre con le puttanate vere che invece secondo me dice Ferrara in TV? Ecco, che le puttanate di Travaglio uno se vuole può anche non sentirle, non si compra il giornale e finisce lì e non spende un centesimo di soldi pubblici. E invece lei dice il foglio viene pagato. Cioè, stiamo parlando di soldi, no? Per sentire le puttanate di Giuliano Ferrara abbiamo dovuto spostare 60.000 euro al mese per 2 anni per sentire 5 minuti di trasmissione di Giuliano Ferrara in Rai. Ma lei dice... Cioè, io a questo punto volevo rivolgere... Dopo il TG1 la trasmissione. A tutti i radioascoltatori... Radio Londra. Sì, volevo rivolgere a tutti i radioascoltatori del PDL, ecco, che amano molto questa trasmissione. Sì. Ecco, mentre non solo gli ascoltatori del PDL, tutti amano questa trasmissione, quelli che l'ascoltano e certamente non sono lettori del PDL. Questi sono bazzecole, dai. Mentre state a cena a vedere la TV il TG1, dopo un minuto Giuliano Ferrara ha guadagnato 600 euro. Ecco. Questo, stiamo parlando di queste cose. Poi Giuliano Ferrara si permette di parlare di arrivismo dei magistrati. È una cosa che vabbè, Giuliano scusi, Ferrara però, e solo in Italia può succedere. E mi dispiace, Cruciani, che lei non abbia sottolineato questo aspetto. No, mi conferma ma ancora di più che lei a volte ha il salame negli occhi. No, però scusi Francesco, abbia pazienza, io ho semplicemente detto che a me piace un Giuliano Ferrara combattivo, come è sì, stato l'altro giorno, punto. Questo a me poi è molto di quanto Giuliano Ferrara prenda la RAI, di quanto guadagni, questo non mi interessa, sono scelte aziendali, come viene pagato Giuliano Ferrara vengono pagati anche altri artisti, altri giornalisti, troppo, poco, non lo so, questo lo decide il Consiglio di Amministrazione della RAI, poi... lo decide secondo il valore di mercato di una persona, certo dovrebbe decidere anche secondo gli ascolti. Però voglio dire, caro Cruciani, che Giuliano Ferrara non può permettersi di offendere i magistrati, ecco, perché la magistratura ha dei suoi organi. Però scusi Francesco, non è che ha offeso tutti i magistrati, ha parlato di magistrati arrivisti, cioè quelli che vogliono farsi propaganda con le inchieste, quelli che vogliono farsi conoscere più per le interviste che per politica. Le inchieste, e li ha chiamati come, in che modo li ha chiamati? Fottutissimi carrieristi, alcuni sono carrieristi, poi secondo lui anche fottutissimi. Nella battaglia mediatica ci sta anche questo tipo di linguaggio. Qual è il problema? Lei che mi pare uno insomma che a cui piace Marco Travaglio, certo non si scandalizzerà per questi termini utilizzati da Giuliano Ferrara, o no? questione è questa, che Giuliano Ferrara è, mi lasci passare il termine, visto tutto quello che abbiamo sentito fino ad ora, che è uscito dalla bocca di Giuliano Ferrara, è un fottutissimo giornalista. E va bene, ma lei va, lo dico. È che per 5 minuti di trasmissione in Rai, per ma che c'entra? Scusi, che c'entra? Guadagnava 600 euro al minuto e non si può permettere di parlare di arrivismo sui magistrati. E io ho detto una cosa semplicissima, evidente. Continuo a non capire il nesso tra queste due cose. Comunque, se lei ce lo vuole mettere, lo metta. Io sto dicendo semplicemente che lei, che uno che ama Marco Travaglio, forse le piace pure Grillo, non lo so. Insomma, si scandalizza per il linguaggio utilizzato da Ferrara nei confronti dei magistrati. Ma di che parliamo? Scusi, Francesco, di che parliamo? Guardi, mi pare strano. Cruciani, guardi che io non è che amo Marco Travaglio, forse è lei che odia Marco Travaglio, è diverso. No, odia, io ho detto lei ama Marco Travaglio, no? No, io giudico, io da radioascoltatore, da cittadino che legge un po' i giornali, che sente la radio, Radio 24, giudico i comportamenti e le dico che Giuliano Ferrara non può permettersi di parlare dei magistrati in questo modo e a maggior ragione non può parlare di arrivismo, visto che lui per 2 anni riceveva 600 euro al minuto per 5 minuti di trasmissione al giorno per difendere Silvio Berlusconi. Ma continuerà a prendere. Non può permettersi di parlare in questo modo dei magistrati. È semplice, qualcuno ha valutato che vale quei soldi, qualcuno del servizio pubblico qualcuno che era collegato sempre a quel sistema al cui vertice c'era uno, il cavaliere. Voglio dire, noi che stiamo giocando, siamo in Italia. No, ma certo, Francesco, non c'è dubbio. Detto questo, la RAI, diciamo, amministrata dal centro-sinistra, fa certe scelte, la RAI amministrata dal centro-destra fa altre scelte. Grazie. Paolo dalla provincia di Pordenone, buonasera. Grazie, Francesco. Paolo. Sì, pronto, buonasera Cruciani. Dica, Paolo. Complimenti. No, io avevo chiesto di poter intervenire per l'argomento di prima che voi trattate molto spesso, l'argomento gay. E volevo solo puntualizzare una cosa, perché se ne parla in mille modi, non sono malati, siete contro, non siete contro. Io parto dalla natura, che è perfetta, che ha fatto maschio e femmina. Il maschio deve correre dietro la femmina, e la femmina al maschio. Nel momento in cui non accade questo, si è dei ibridi. È delle figure ibride, cioè non si è nell'equilibrio della natura, quindi non so come definirli malati. Lei chiama degli ibridi, gli omosessuali li chiama degli ibridi. La natura fa bianco e nero, chi è grigio com'è? Cioè esiste maschio com'è, e femmina. Com'è il grigio? Com'è il grigio? Il grigio non appartiene all'equilibrio della natura, quindi non com'è lo deve sapere lui, non lo so. Io so che esiste maschio e femmina. Lei sa che esiste maschio e femmina? È attratto dalla femmina, la femmina. Questo è un altro maschio. Matto, Vabbè, Paolo. Lei non accetta questo ragionamento semplice. No, ma la sua è una patologia. No, ma va bene, ma insomma. No, non è una mia osservazione. Se lei guarda la natura, si accorgerà anche lei. Non è un punto di vista, è una legge della natura. Mi segnalano che anche gli animali sono gay, è provato, Ci sono altre cose. L'animale non è gay, è una lotta di potere, l'animale ragiona diversamente dall'uomo, mi scusi. Scusi, allora i gay lei come li considera, contro natura? Io non li considero, io so che cos'è la perfezione in natura, so che non è nella perfezione della natura, non so che cos'è. E che cos'è? Non rientra, non e come la trattiamo questa cosa, questa imperfezione? Lei ha usato una parola giusta, la dobbiamo trattare questa cosa, prima di dare figli a queste persone. In che modo? La dobbiamo trattare. Ma chi dà Sa che è stato eletto Mr. Gay la settimana scorsa a Forte dei Marmi, insomma in Versilia, non mi ricordo dove esattamente, il quale ha un figlio di 3 anni, una cosa meravigliosa. A lei piace, Paolo, questa cosa? È il figlio che pagherà le conseguenze. È ancora in casa. Mettiamo cerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. La matriosca è laica e suona con maestria. Siamo qui, la zanzara 800240024. Dopo l'esplosione del signor Forconi. No, dimentichiamolo, signor Forconi di Forza Nuova. Proviamo a dimenticarlo. Va? Siamo in attesa dell'arrivo di Enrico Letta, vice segretario del Partito Democratico. Ha annunciato che verrà, manca mezz'ora. Signor Letta, si sbrighi, però. Io altrimenti. Domande. Chiudiamo la trasmissione. Giovanni da Pescara. Buonasera, signor Giovanni. Buonasera a lei, salve signor Cruciani, salve Parenzo. Io volevo fare un semplice intervento perché io conosco personalmente il signor Forconi in provincia e andavamo allo stesso liceo, un liceo molto piccolo, quindi ci si conosceva un po' tutti. E la cosa carina è che distanza dei 3 anni che ho frequentato il liceo, eravamo molto lontani dal signor Falcone, perché eravamo tutti convinti. Tutti convinti, scusi? Giovanni, tutti convinti di che? Saltato tutto. Di nulla. Marco dalla provincia di Verbania. Marco? Salve Cruciani! Che, ma da dove chiama? Da dove chiamo? Sono in macchina. Oh, perfetto. Senza viva voce, Marco? No, senza viva voce, assolutamente. Senta, allora? Ma sto Falcone, ma dove l'avete pescato? L'abbiamo pescato nei meandri. Cruciani, riesci a trovare? Capisco che... cioè, per voi è tutta buona merce questa, perché vi dà la possibilità di fare un contraddittorio molto piccante, però onestamente sto Falcone qui era meglio non farlo passare in radio, perché ha detto una serie di cose. Scusi, per quale motivo al mondo? Ma perché? Per quale motivo al mondo bisognava farlo sentire? Cioè, a me non ha dato nessuna informazione, non mi ha neanche perché fatto noi, sorridere. Non ho capito. Esistono anche queste persone qui. Non mi ha neanche fatto qui. Sorridere, cioè mi è sembrato un po' patetico. E quindi... Bocche. Che non ne ho visto il motivo, onestamente. Non ne ha visto il motivo, io ho visto grandi motivi invece per invitare il signor Falcone. Signor Falcone. Che diabolico il signor Cruciani, deve sapere, è diabolico. Gli piacciono questi sì, mostri? A me piacciono anche i mostri. C'è un po' di diabolico in questo, cioè... A me piacciono i mostri, capito Marco? Era mostri. Un po' come la pubblicità che si diceva in televisione, vinco facile. È un po' perché vinco una facile? Persona... Si è difeso anche in maniera... Ha provato a lottare come un leone. Ha provato a difendersi. Cioè... si può provare a lottare come un leone, però quando non ci sono, cioè quando si dicono cose palesemente assurde, c'è poco da fare, insomma. Vabbè, io Marco, sono d'accordo comunque, con lei. Noi l'abbiamo fatto sentire, io sono contento di averlo fatto sentire. Fa politica sto signore, che bisogna fare? Fa politica, diciamo, per modo di dire. Beh, purtroppo qualche voto lo prendo. Io dico perché vogliono fare Albadorata, dici, no? Vogliono fare. Vabbè, siamo movimento. Di nuovo con Giovanni da Pescara, però. Giovanni? Eccomi qui. Salve. Allora, che stava dicendo, scusi, di Falcone, che lei conosce? Che adesso andiamo tutta questa importanza a signor Falcone. A Marco, perché Marco Falcone, sì. Che ai tempi del liceo, tra parentesi permetto che lui adesso si è candidato anche come candidato sindaco nelle elezioni che ci sono state. Comunque vorrei ricordare che lui veniva discriminato nei 3 anni che io sono stato in quel liceo proprio perché era considerato omosessuale. Quindi diciamo che il piccolo liceo lo discriminava tutti perché erano tutti convinti che fosse gay. Quindi questo suo adesso odio nei confronti, adesso capisco da dove nasce, quindi nelle sue parole. Ma adesso questa qua, scusi, noi non facciamo mai possiamo sapere non facciamo cose. Mai discussioni di questo tipo, quello era gay, quello no, era no, così, ma era una là. Battuta ironica perché adesso lui si batte, ma nei suoi atteggiamenti o comunque al liceo lui era identificato come il gay del liceo. Quindi probabilmente questa sua ossessione che ha nei confronti di Ghede, non so da dove viene, o se è una sua repressione, perché io poi comunque lo conosco, quindi ho avuto modo anche di parlarci, e quindi sono convinto che secondo me quelle cose che si dicevano ai tempi del liceo sono vere ancora. Magari lo dice così per allontanare dei sospetti, Va bene Giovanni, grazie. Ada, grazie provincia di Vicenza, buonasera signora Ada. Cara Ada, mi sente o no? Pronto? Pronto? Pronto? Ada, nessuno. Vabbè, Serena da Roma. Buonasera. Io intervengo buonasera. Per quella genialata, peraltro non dire, della tassazione delle bevande gassate, edulcorate, dei superalcolici. Sì, pare che sia stata al momento bloccata. Sì, viva la coerenza, tra l'altro, ma questo caso è meglio. Piuttosto prendiamo allora i soggetti obesi malati cardiovascolari o i fumatori col tumorazzo ai polmoni o i cirrotici alcolisti. Secondo me a questi soggetti non andrebbero semplicemente garantiti i servizi gratuiti del sistema sanitario nazionale. Esistono le assicurazioni sanitarie che questi paghino per i loro comportamenti autodistruttivi e scorretti, no? Se acclarati poi come cause della patologia, sempre. Che comunque costano alla collettività. Questo condurrebbe a un risparmio, invece di tassare, di limitare la libertà dei comportamenti individuali. Io non ho capito bene, scusi, che cos'è che farebbe lei invece di tassare i cibi dannosi? E un soggetto malato è acclarato che abbia questa malattia per un suo comportamento scorretto, non gli andrebbe garantito il trattamento gratuito del sistema sanitario nazionale. Non ti opero gratuitamente per un tumore al polmone e per una malattia cardiovascolare che ti conduce alla morte. Questa mi pare una follia pura. Sì. sicuramente. Questa è una follia, invece ha molto più senso, ad esempio le sigarette, che io sono un fumatore, ma dico, il fatto che le sigarette costano tanto, 5 euro a pacchetto, è una cosa giusta, perché è giusto mettere le tasse su ciò che fa male. Per cui lei tasserebbe le bevande gassate? Ma io adesso non sono pregiudizialmente contrario, se mi dimo, io non so poi se fanno veramente male. Io sono contrarissimo. Io poi le bevo, figuriamo, io sono contro l'aumento delle tasse, questo sicuro. Dopodiché non mi scandalizzo di fronte al fatto che alcuni cibi che è risaputo facciano male, dico vabbè, se ci mettono un piccolo aggravio, come per le sigarette fanno oggettivamente male, sì, è giusto pagarle di più di altri prodotti? Dico sì, questo sì, però lo dico, io sono un fumatore, quindi figuriamoci se non mi pesa pagare di più, però so che fa male e quindi pago per farmi male, doppiamente cretino potremmo dire, sono sì, doppiamente ma sul cretino. Cibo rispetto alle sigarette non può essere, le cose non possono cibo, essere accostate. Per cui noi come collettività dovremmo pagare comunque sia per i trattamenti gratuiti per chi si mangia 3 Big Mac al giorno al McDonald's, questo le sembra giusto, evidentemente. Va bene, grazie Serena. No, secondo me è sbagliatissimo. Ada, provincia di Vicenza, forse l'abbiamo recuperata. Sì, buonasera. Buonasera signora. Avrei voluto telefonare altre volte per dire bravo e ascolto con piacere. Qualche sì. altra volta volevo chiedere, spiegatemi perché non sono d'accordo con voi, ma si sarebbe mi sarei schiarita. Stasera ho spento la radio sì. indispettita. Sì. Perché no, tre che persone cosa? Che parlano contemporaneamente sì. non si capisce niente e infastidiscono sì. e basta. Per me è già una questione succede. Ho sempre ascoltato e ascolto sempre Radio 24, ho la radio sintonizzata sì. solo su voi perché la ritengo sì. una radio intelligente. Stasera sì. non lo è stata, per me. Lei mi spieghi se ho torto. Ma infatti noi non vogliamo fare la radio intelligente. Grazie per aver chiamato. Grazie, comunque. Intanto l'anagramma di Forconi può essere anche Frocion in veneziano. Questo la signora Ada magari in questo caso Peccata. Può averlo afferrato tranquillamente senza sovrapposizione di voci. Ma proviamo a fare quella telefonatina lì al Marchese del Grillo. Chi è il Marchese del Grillo? All'hotel 5 Stelle. Lì. L'hai dato il numero? All'hotel 5 Stelle. Sì, ce l'hanno, dovrebbero avere. Sui regia Marchese a Milano. Del Grillo. Il Marchese del Grillo. Vediamo se risponde. Potremmo Marchese sentire. Del Grillo, su. Marchese signor del Grillo. Signor Beppe, che non vuole mai parlare con nessuno, fa i suoi monologhi, il Movimento 5 Stelle. Signor Grillo, vediamo. Va. Ce l'hanno, vediamo se si riesce a far squillare quel telefonino. Cesare da Monza, intanto. A tutti. Io intervenivo per questo, Cruciani. Ho visto un sondaggio fatto all'interno degli elettori del PD, secondo sì. il quale la maggioranza di questi elettori è favorevole ad un'alleanza con Vendola. Ecco, questa alleanza con Vendola per me è una sì. delle cose che più mi hanno spaventato, tra virgolette, della politica nell'ultimo periodo, perché tra mettere insieme PD e Vendola vuol dire che siamo nei guai, è un altro sintomo di vecchiume della nostra politica. Il primo era stato questa storia di Berlusconi che sembra ricandidarsi, speriamo di non per tutti, però mettere insieme PD e i vendoliani. Ma qual è il problema? Io penso anche che... simpatico, però il problema è che questo qui, gestire il debito pubblico con Vendola vuol dire non fare nulla, perché si blocca tutto. Beh, è un problema, quello là effettivamente è un problema. Cesare, la ringrazio. Sulle bibite gassate, però occhio anche alla salsiccia, trigliceridi alle stelle, perché non tassiamo anche la salsiccia, per esempio, occhio anche al computer, quello che abbiamo qui di fronte potrebbe aumentare le spese, diciamo, oculistiche, no? Allora perché non tassare di più anche no, i computer? No, ma io capisco la polemica. Capito? Giusta, non sono la salsiccia, vietiamo la salsiccia che abbiamo mangiato anche ieri qui a Vetro, nello spazio di Vetro. Perché non tassiamo più anche quella? Perché può aumentare il colesterolo. Avete mangiato? Perché io non le mangio queste cose. No. Perché... No. Non le mangio queste cose. Hai mangiato la salsiccia? Perché non tassiamo anche quella? No. Onorevole Letta, si sieda. Eccolo! No. Allora, per chi ci ascolta da casa oppure dalla macchina bloccato sul grande raccordo anulare, sì. sappiate che l'onorevole Letta, vice segretario del PD, ha appena preso un bicchiere d'acqua. Bicchiere d'acqua, notizia. Non è una bibita gassata, mi sembra. No, non è una bibita gassata. Esatto. Intanto è la prima grande notizia del giorno. Bene, si siede, onorevole Letta, buonasera. Io voglio subito però fargli una domanda subito imbarazzante. No, ma se fare le domande da Lecchino. No, volevo sapere davvero, la prima domanda proprio ficcante. Buonasera. A ascoltatori, più Carole, che a voi due. Grazie. No, scusi, qual però è? Non è una bibita, aspetta, sì, le due domande da Lecchino le fai dopo. No, non è una bibita gassata, giusto sì, questa no, cosa? No, non ho preso è una bibita naturale per non pagare le tasse. Per non pagare le tasse. Mi dica subito la verità su questa cosa, è una boiata pazzesca. Sì, adesso non fatemi dire parolaccio. No, parolaccio no, però una boiata non è una parolaccia. Vera boiata del governo, diciamo, tecnico. Non è un'idea geniale. Ecco. è uno degli errori del governo. Sì. Tra l'altro qui è andato fortissimo il chinotto qua. Ci avrebbero massacrato di tasse. È una forma di disobbedienza civile. Effettivamente qui a Vedrò, per accordi commerciali che hanno fatto il signor Letta e altre persone. No, qui semplicemente, siccome siamo retro, è chinotto e spuma. Chinotto e spuma. Ma vi ricordate Elio Storietese? Roba anni 80, come, certo. Cioè, com'è temporeggio bevendo spuma? Temporeggio bevendo spuma. Esatto. Tapparella. Avrebbero massacrato. Tapparella, temporeggio bevendo spuma. Ascoltava Elio Storietese, mi piace. No, Elio è un mito. Si ricorda quella, c'è un dirigibile marrone senza elica. Allora, senta, ma no, se cominciamo su Elio non finiamo più, no, ragazzi. Seriamente. Qual è il segreto? Cassonetto differenziato. Qual è il segreto del suo successo? Ma vai a quel paese, vai, imbecille. No, solito, no, un po' lì, no? Posso chiedere una cosa? Sì, come sì, no? Qual è? Io ho visto in Parenzo un cambiamento recentemente. Anch'io? No. Anch'io, sì. No. Ma anch'io, che è successo? So, l'ha sentito anche alla radio, vero? L'ha sentito un po' meno efficace, un po' più... Ma che roba è? Un po' così più frillo. Cioè, che vuol dire frillo, scusi, in toscano? Frillo. Frillo, cioè? Svagato, ecco, svagato, cioè, svagato, distratto. Lo so, era ragione, non lo dica a me. Cioè, non stretto sul punto. Non stretto sul punto, è vero. Vabbè, allora guardi, è vero, ha ragione. Parliamo di Vendola, allora, Carole. Allora, se inizia così, devo parliamo dire di Vendola. Allora. Sono problemi molto gravi quelli che stanno accadendo, non entriamo nel merito, problemi familiari, l'amore, problemi familiari. Io posso dire, Cruciani, le sono solidale. Ecco, state già creando. No, perché so che in questi casi e poi dopo sono cavoli dell'altro, no? Sì, in una sì, coppia. Sì. È vero. In una coppia, noi siamo una coppia di fatto e devo dire, i problemi dell'uno e dell'altro si trasferiscono automaticamente. Ma vi sembra una roba di interesse pubblico, di grandissimo interesse democratico. No? Certo. Si occupi delle... Io penso che agli ascoltatori interessa molto più questa roba di qualunque... No, le tasse sulle bibite gassate interessa. Quella interessa. Però salviamo il chinotto e la spuma bionda. Che la ritirino, no? Questa cosa qua. Subito che la ritirino subito, cioè. Ma non c'è poi la tassa solo sulle bibite gassate. In generale, intervenire su queste cose qui è sbagliato, no? Le tasse dà un po' l'idea dello stato etico di uno che vuole controllare, no? La tassa sui cibi grassi, queste robe qui, o no? No, poi a vedere voi due che siete. No, anche lei, non è che adesso non mi sembra un obeso, eh. Vabbè, insomma, Bersani ha scelto Vendola, questa è la verità. Ieri andiamo al sodo. Non ci può... Andiamo al sodo. Bersani ha detto questo è il punto di oggi. Cioè. Questo è il punto di oggi. No, non possiamo non chiederglielo, diciamo. Avremmo voluto non chiederglielo, ma no, veramente io la prima cosa che volevo chiedere, sì, comunque, veramente. Ha scelto Vendola. L'UDC non è nel centro-sinistra. Condivide? Dunque. No, adesso no, dobbiamo parlare seriamente. Seriamente, però è la radio della Confindustria. A modo nostro, come? È la radio della Confindustria. Dico, non questa? Siamo serissimi. Voi due? Sì, non è la radio Bau Bau. Siete la radio della Confindustria. Non è radio Bau Bau. Lo so. Sì, sì. No, davvero. Ci vogliono anche cacciare. Signor Squinzi, qualcuno ci vuole anche cacciare. Salutiamo. Cioè, voi siete pagati da Squinzi? Assolutamente. Una minoranza ci vuole. Orgogliosamente pagati a signor Squinzi, che salutiamo, peraltro. Una minoranza ci vuole anche cacciare. Per adesso una minoranza molto, sì, molto ristretta, eh. Però, che Letta è molto abile, perché noi abbiamo fatto la domanda su Vendola e lui invece ci sta portando su. Vabbè, condivide quello che ha detto Bersani ieri sera o no? Guarda, allora, il punto è questo. Sì. Noi dobbiamo fare, perché si torna alla politica alle elezioni. Sì. Lo so che è una roba che la gente dice addio. Si torna ai politici, soprattutto. A toccarsi, si torna, no? Ai politici. Però è vero, uscendo dagli scherzi, è vero che andiamo alle elezioni e alle elezioni devono presentarsi un centrodestra e un centrosinistra, come in tutti i paesi europei, perché in Francia si è presentato Sarkozy e Hollande, ha vinto Hollande e oggi governa Hollande. In Germania si presenterà la Merkel e si presenterà magari Steinmeier, non lo so, o Steinbrück. E in Italia avremo le elezioni e le elezioni, se Dio vuole, spero, con una legge elettorale sulla quale stiamo spingendo, perché i cittadini possano scegliere i loro parlamentari, avremo un confronto ma tra non il governo. Centrodestra e centrosinistra, no, con un premio di maggioranza che consenta poi al partito, la governabilità. comunque un premio di maggioranza forte. Non è meglio tenersi Porcellum per voi, per col, carità, premio, col premio di maggioranza alla coalizione? Eravate al governo in carrozza. Questo è quello che mi hanno detto in tanti, anche in questi giorni. Ma perché caspita ti stai spendendo tanto per cambiare la legge elettorale? È così. Dici, innanzitutto fai una figuraccia perché poi rischiano che non la cambiano e tu sembri il coglione lì. E poi voi che siete in vantaggio avete tutto l'interesse. È così. No? Il tema è molto semplice. Questa legge elettorale è metà del problema della delegittimazione della classe politica. Le liste bloccate, cioè un Parlamento, ma le volete mantenere anche i nominati? In parte le volete mantenere? No, noi no. Il Parlamento di nominati dai partiti è un Parlamento di per sé delegittimato, e un Parlamento delegittimato non è in grado di fare le scelte difficili che... Però scusi, non l'ho letta. Allora, voi concedete il premio non alla coalizione ma al primo partito. Le preferenze... Cruciani, scusi, mi dica un altro paese al mondo in cui c'è il premio alla coalizione. Me ne dica uno. No, forse dove era nel passato? Non esiste al mondo. Il Porcellum ha messo una cosa, il premio alla coalizione, che non esiste da nessuna parte. Abbassatelo un po' invece del 5, del quello che è il 60. Non ha senso, c'è solo in Italia il premio alla coalizione. È una cosa che non ha senso quella lì. Per cui il tema è le liste bloccate, vanno lasciate una piccola percentuale. Ma per me no. Beh, per lei no, però io, nell'accordo c'è. Forse avete fatto. Per me io metterei preferenze. È d'accordo. Punto. Bene. Però nell'accordo ci sarà, per forza. Io adesso perché la vuole PD, solo perché la vuole PDL? O per quanto ci riguarda no. Ah, voi non volete le liste bloccate, però poi per compromesso lo dovete fare. Noi siamo minoranza in questo Parlamento. Essendo minoranza in questo Parlamento, o accettiamo un accordo anche con gli altri, oppure rimane il Porcellum. La mia tesi pur di cambiare il Porcellum è che il Porcellum è il male assoluto. Vabbè. Okay. Quindi bisogna... Allora, non ha risposto, però, non ha risposto però non su voglio quello. Dare l'idea di essere un evasivo. No, non ha risposto. Torniamo a Vendola. Allora, bisogna fare centrodestra contro centrosinistra. E noi vogliamo dire prima... con chi faremo il governo? Io lo dico molto chiaramente, ma l'ha ripetuto Bersani, l'abbiamo detto. Convendola. Noi il governo lo vorremmo fare con un'alleanza moderati, progressisti, che cerchi di tenere insieme Vendola e Casini. Ma non ci vogliono stare, hanno già detto, l'hanno ripetuto mille volte. Continua a ripeterlo anche queste ore. Noi ci proveremo lo stesso perché dobbiamo cercare di fare una cosa che abbia la maggioranza assoluta dei voti. Dunque Casini, sbaglia Bersani a dire che Casini non è nel centro-sinistra. Ma Casini sono i moderati. È al corteggiabile. Ma lei è moderato come Casini, non è che è più vicino. Lei è più vicino a Casini o a Vendola? Vabbè, sicuramente. Mi dica la verità. Sono più vicino a Bersani. Io la combatto. Siamo qui 800 24 00 24. Cos'è che ci siamo persi? No, perché lui mi stava parlando del vernacoliere. Sì, come no, perché c'ho qui il titolo del vernacoliere. Dice: Sirvio ritorna, puttana in festa. Si aspettano un altro gran casino di governo. Vernacoliere, non siamo noi che diciamo le parolacce. Sì, però c'è stato l'altro giorno è uscito una locandina del Tirreno. La dica tutta. Che è bellissima, perché a Pisa c'è un problema serio, però questo problema serio poi è stato trasformato da questa locandina in una cosa un po' forte, diciamo così. Il problema serio è che c'è una ristrutturazione alla base militare di Camp Darby, americana, e ci sono alcuni posti di lavoro che verranno persi, viene proposta una sostituzione nell'altra base militare americana del Dalmolin a Vicenza, si sta lavorando e si sta cercando di premere perché gli americani cambino posizione, me ne sono occupata anch'io, insomma stiamo spingendo, ma è stato strepitoso la locandina del Tirreno, quindi lo dico perché mi dispiace ovviamente per le persone che hanno difficoltà da questa vicenda. Il titolo era di conseguenza rispetto a questa vicenda, ci sono state azioni sindacali, no? La CISL fa causa a Obama. E il Tirreno non è un giornale satirico, questo bisogna dirlo, perché sennò la CISL fa causa a Obama, mi ricorda quella cosa della vicenda di Taormina. Senta, ma lei ha detto, insomma, lei ha più cose in comune con Casini che con Vendola, lo dica, ma è chiaro. Ma perché non parliamo di cose concrete invece di parlare concrete? Di noi non parliamo mai di cose concrete, di algoritmi, no, ma di cose. Va bene, allora, di lavoro facciamo, facciamo una dichiarazione ufficiale del vice segretario del Partito Democratico: alle primarie appoggerò Bersani. Proprio una cosa alle primarie appoggerò Bersani. Eppure la prima Leopolda, mi ricordo che lei praticamente partecipò, quasi collaborò alla prima Leopolda di Renzi, sì, questo me lo ricordo benissimo, senza tema di smentite. No, però non... Quali errori ha commesso Renzi? Ma non c'è nessun errore, penso seriamente che in un momento come questo, siccome stiamo parlando delle primarie per fare il candidato presidente del Consiglio, Penso che in un momento come questo Bersani sia la persona, essendo il segretario del partito, del PD, che può tenere unito il PD, tenere unita una coalizione larga, sì, e vincere le elezioni. E quale difetto, il principale difetto di Renzi qual è, secondo lei? Vabbè, ce n'è uno che è il più grande di tutti. Cioè, che? Della Fiorentina. Fiorentina. Che è fiorentino, innanzitutto. Vabbè, ho capito, però. Questo è proprio gravissimo. Quello, però. Però verrà qui domani. Quando Renzi lo vedo, no, con quella maglia stasera, viola. Stasera arriverà qui da lei. Bella quella foto, però, con la maglia. Lei andrebbe mai allo stadio con la maglia del Milan. Beh, certo. E allora qual è? Perché, perché fa così? No, lui parla da tifoso, cioè vabbè, dice, capito, da tifoso milanista, dico questo, il più grande difetto, politico, qual è? Il difetto politico. Ma io non è che devo tirare fuori difetti, dico bisogna scegliere, io scelgo, tra l'altro io sono il vice segretario di Bersani, ho condiviso le scelte. Sarebbe in questo strano, periodo, quindi mi sembra una cosa assolutamente però naturale. Interessante che Renzi venga qui da lei domani. Quanto vincerà? Innanzitutto, qui c'è gente del PDL, perché è strano che viene Renzi? Qui mica è casa mia, questa qui è una roba, lo sapete, lo conoscete, però è una cosa larga, in cui ci sono, tra l'altro, i politici sono pochissimi, la maggior parte delle persone che vengono sono persone delle professioni, del mondo della ricerca, del mondo dell'economia, gente che viene da lontano. Oggi abbiamo avuto queste due esperienze straordinarie, il padre Dall'Oglio, che è il padre che è andato via dalla Siria, mandato via dalla Siria, Alberto Cairo, il rappresentante della Croce Rossa in Afghanistan, che ci ha raccontato delle cose fortissime. E poi ci sono anche qualche politico, ma c'è di tutto. Vabbè, avrà commesso un errore. È venuto De Magistris, è venuto. Sì, ma infatti, gente del PDL. Non è il problema, non è Renzi. C'era Giorgetti della Lega. Si è detto, per esempio, oggi c'è un articolo su Dago Spia, non che sia la Bibbia, per carità. però c'era un articolo che diceva che Renzi faceva anche, puntava anche sul suo appoggio. Questo è. Adesso. Sinceramente non è Dago Spia il Vangelo. No, ma non solo Dago Spia, molti parlavano di questo. Penso che Renzi non abbia problemi, il bisogno del mio appoggio o altro. Perché poi quanto vincerà secondo lei Bersani? Si può fare, che ne so, 60, 70? Ma non lo so. Non lo so. Lei, se ci fosse un governo Bersani, ha fatto il ministro, è stato prima della Meloni più giovane ministro della storia della Repubblica Italiana. In un governo Bersani cosa le piacerebbe fare? Mi dica la verità, però stiamo parlando di fantapolitica, lo so, però cosa le piacerebbe ministro fare? Ministro dell'economia. Ma no. No? No. Beh, sì, cioè, a me piacerebbe moltissimo aiutare che questa cosa d'accordo accada. Però anche un incarico un ruolo di governo sicuro, l'ha avuto quando era così giovane, ora ha fatto un percorso. Guardate, vi stupirò ma non ho un'aspirazione personale. Senta, diciamo, fare il ministro dell'economia no? Non ho un'aspirazione. Tra l'altro, in questo momento avere aspirazioni di questo genere è soltanto è dannoso. Vabbè, diciamo qualcosa di carino. Ma non sto scherzando. Su Grillo, sul suo amico Beppe Grillo, che l'ultima stronzata che ha detto oggi è senatori a vizi. Su questa ragione. Senatori a vita praticamente eterni, quasi ad augurarsi la morte di persone come. No, ha detto che non va, che vanno eliminati i senatori a vita. Ha ragione su questo. Quando Rita Levi Montalcini ha fatto una cosa vergognosa. Perdere, le piace questa nuova campagna del signor Grillo contro i senatori a vita, o anche lei ritiene che i senatori a vita siano totalmente inutili? Ma parliamo del Milan, ma che ci frega dei senatori a vita? Parliamo del Milan. Scusi, mi dico la verità, la più grossa delusione di Berlusconi è questa spending review sul Milan, altro che no. Un disastro di proporzioni. Ma è una cosa pazzesca. Siete arrivati a comprare due Niang e poi un altro Berkic. Bojan, quello della Roma, ve lo danno praticamente gratis. Berlusconi, faccia un appello a Berlusconi, almeno sul Milan ricacci fuori i soldi, o no? No, dico almeno Kakà, ecco. Almeno Kakà. Almeno Kakà. Sì. No, la scena di sabato, di quando è stata, non si poteva vedere. Qual è la scena di sabato? No, la sconfitta con la Sampdoria. Ah, no, domenica. No, sì, domenica. Eravamo domenica. Qua, tra l'altro, io stavo anche poi... Perché non avete invitato, per esempio, alla festa del Partito Democratico, no? Adesso a Reggio Emilia? Perché non avete invitato, a parte Grillo, che si può Di Pietro, ma anche la Fornero, per esempio, un ministro di un governo che voi appoggiate, perché non l'avete invitata? Ma forse era meglio se veniva. Era meglio se veniva invitata. Invitata alla festa di Sella. Ma uno come la Fornero, che tra l'altro viene da un'esperienza che è quella, credo, della sinistra torinese, no? Della sinistra riformista. No, ci sono state sicuramente delle incomprensioni, però insomma. Penso che sia una persona stimabilissima. Che lei vorrebbe anche magari in un futuro governo può avere un ruolo di questo tipo? Perché no? Perché dobbiamo infilarci in queste cose? Parliamo di cose, ma perché dobbiamo? Io penso gli ascoltatori ci ascoltano. Ma guarda sti minchioni. Perché questo lo dico sicuro. No, ma perché l'esperienza politica della Fornero è un'esperienza politica che lei ha apprezzato molto. Quindi è naturale dire, la possiamo immaginare in un governo riformista prossimo futuro. Non è sbagliato. Questo è il ragionamento. Vede il lucido Parenzo che ogni tanto riesce. Nonostante Frillo. Logicamente a tirarle fuori le cose. Abbiamo un minuto, ma lei il posto giusto per Berlusconi qual è? I giardinetti? No, io sono rimasto molto colpito da questo suo ritorno in campo. Sto ritorno in campo ha peggiorato le cose. Colpito o stordito? Onestamente, colpito perché o stordito ha peggiorato le cose? Ma ha peggiorato le cose. L'accordo sulla legge elettorale l'avremmo fatto molto ma prima. Ma non è che sono colpa di Berlusconi. Ma su. Sì, no, lo dico. Ma perché vuole rimanere? Lei dice sta cercando il modo di rimanere a galla in tutti, perché in tutti i modi. Perché vedo che quando. Cioè, stavano tentando, il PDL stava tentando di diventare un partito conservatore europeo, come ce ne sono in ogni paese europeo. È arrivato Berlusconi, siamo tornati... È un partito conservatore europeo, Alfano è una persona che poteva rappresentare, invece può rappresentare il leader di un partito conservatore europeo normale, moderno, con cui fare... avere un'interlocuzione sulle riforme istituzionali, sui grandi temi, eccetera, e invece torna Berlusconi e ritorna all'anomalia, cioè l'anomalia di un partito carismatico, personale, in cui non si sa mai chi alla fine come le decisioni. Senta, un'ultimissima cosa, ma il posto adatto a suo zio potrebbe essere il Quirinale, per esempio, oppure ormai... Beh, perché no? Perché no? Il silenzio è che non siamo in TV, che ne se lo meriterebbe, la se lo meriterebbe o no? Non Letta, se lo meriterebbe o no? Ma chi? Perché dovete farmi queste domande? Perché magari dice se lo merita, se lo merita. Siete cattivi dentro. Se lo merita sì o no? Perfidi. Se lo meriterebbe. Avevo detto se di lo rispondere su no? Grillo, io gliel'avevo detto. Se lo meriterebbe o no? Lei non ha voluto rispondere su Grillo. Lei non mi ascolta mai. Lei mi le ho detto risponde su Grillo. È veramente un muro di gomma pazzesco. Un muro di gomma pazzesco. Dobbiamo chiudere. Dica una gentilezza Grillo. Un'ultima gentilezza delle sue Beppe Grillo. No, io vorrei che Grillo, voglio dire, dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. E sennò c'è la io pubblicità ho che... criticato Berlusconi. Abbiamo fatto la guerra a Berlusconi per anni. Meglio, perché... PDL, meglio PDL di Grillo. Lo ripeta meglio perché PDL Berlusconi di... interpretava un modo di far politica in cui parli dall'alto, non fai domande. È uguale per... domande, Grillo risposte. Uguale. Grillo uguale. L'anatema dall'alto, anzi, con in più, finita. A domani. A domani. Grazie, Nicolò. Grazie. Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara. Che cazzo di conduttore sei? Fate qualcosa, vi prego. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione. Si sente.